Barisone è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sei un imbecille. Sei un imbecille. Continua a fare il bulletto con un ragazzino, ma non ti fai schifo, ma non ti fai schifo quando ti guardi allo specchio. Ti auguro di morire male, ma male male, tra atroci sofferenze. Fatti un controllo, perché hai la faccia di uno che non sta bene, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. Ho fatto un gesto che per il Napoli in agosto è eccezionale, eccezionale, eccezionale. Mi sono coperto, ho scuretri che la squadra è me. Papà di questo ragazzo che mi spiace per lui, mi spiace per suo figlio, spero che migliorerà, se no suo figlio, per bene che vada, può andare a fare il parcheggiatore abusivo, per bene che gli vada. Sei un imbecille! Come? Parenzo che va? Parenzo, scusa, Frocciarenzo Merdarenzo. Che va in palestra a fare il tigre? No! Sei un coniglio! Un micetto impaurito! Pagliaccio! 3 gorille hai voluto passare per passare davanti a me! Altrimenti non avevi il coraggio di uscire dal gabbiotto della concessionaria francese di Modena! Vigliacco! Caga sotto! Piscia sotto! Vile! Vergognati! Pagliaccio! Lui che urla dietro la console! Ma quando ti sei trovato davanti a me, in carne e ossa, te la sei fatta sotto! Vigliacco! Schifoso! Vile! Vergognati! Ti ho sotterrato di vergogna! Pezzente! Miserabile! Miserabile! Hashtag parlateci di Mauroni, stavate con 6 guardie del corpo, vai Mauroni, avanti tutta, 6 guardie del corpo, capito? L'elite, l'elite, una persona alta 1,50 m e larga 2, una palla, un ovale che rotola e voi avete 6 guardie del corpo, vergogna, vergognatevi. Possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. È incredibile. Sai, sono arrivato alla conclusione, mi è venuto un brivido, ma non per quello che ho sentito, perché quando Mauro da Mantova ha pronunciato il nome della concessionaria che ci ha ospitato, ho capito tutto. Lui è pagato dalla concorrenza. Cioè lui è pagato dalla concorrenza delle altre settori auto perché nel momento in cui ha pronunciato il nome del posto dove era, ha distrutto un mercato intero, cioè il fatto che lui sia entrato ieri, che io me ne sono accorto dopo, era con la gente che urlava, Mauro, ma una serata incredibile, cosa pazze, mille miserabili, mille persone che sono venute lì in un orario di lavoro ad ascoltare sta trasmissione, mille della produttiva Modena, Reggio Emilia, territorio straordinario, bellissimo, abbiamo detto ieri, mille persone che sono venute lì ad ascoltare sta trasmissione in un orario di lavoro, ma ti dà l'idea del paese, ti dà l'idea in, in che mondo siamo, dai. Allora io inizierei oggi però, amico mio, con la Parietti, con la signora Alba Parietti. Pensavo volessi iniziare col bellissimo articolo che ha scritto Antonio Scurati sul Corriere, giù, le sardine, guarda, sono un nome che non voglio più pronunciare nei prossimi mesi. Ma l'hai letto Scurati sulle sardine? No, voglio la Parietti, voglio sentire la Parietti. Il radical sciicchismo di sinistra, lo dico con affetto nei confronti della signora Parietti, però con questa snobberia ha veramente un po' rotti i coglioni. Cioè, secondo lei il voto del popolo, se non è istruito, è illegittimo. Ora, cara signora Parietti, secondo lei chi può votare? Chi decide se uno è istruito o non istruito? Allora lo dica direttamente. Se uno non ha la laurea, se uno non ha fatto le scuole superiori, chi lo decide? Chi lo decide se uno è istruito o no? È illegittimo il voto del popolo. La Parietti praticamente contro la zanzara. Sentiamo. Il popolo, tra l'altro, non voglio offendere nessuno, però finché una popolazione non ha adeguata istruzione, non può essere in grado di votare in modo legittimo. Bisogna avere conoscenza e coscienza. È come se uno dicesse a un certo punto, che ne so, le showgirl non possono votare. No, non o che ne so, i barbieri non Alba possono votare. Ma che ne so, ma dai, su, dai. Non puoi appoggiare la signora Parietti in questa cosa, qua è una puttanata che ha detto. Infatti non la appoggio in alcun modo. Prima c'era il censo, poi che cosa? L'istruzione, Non lo appoggio. Certo, però, che avete fatto una bella doppietta. La Parietti non vuole che votino gli ignoranti, la gente non istruita. Beppe Grillo una volta ha detto che non voleva il voto dei vecchi. Cioè, praticamente l'accoppiata PD Five Stars, diciamo, attribuiamo il PD alla Parietti così per semplificare. Quelli non vogliono i vecchi, ecco, e la semplificazione. Né popolo né vecchi. Ecco la semplificazione. Ecco la semplificazione. Perché una nazione. Adesso come mettere in discussione il suffragio universale. No. Però io credo che la gente deve avere la coscienza e l'istruzione necessaria per capire. Perché quando c'è razzismo, non è razzismo. La gente deve avere conoscenza e coscienza. Ma che cazzo vuol dire? Lo diceva Einaudi. Conoscere, cioè, per deliberare. Secondo te Mauro da Mantova non dovrebbe votare. Diciamocela tutta, hai capito? Sai, caro, mi poni un quesito. Di Mauro da Mantova è esattamente uguale al tuo. È esattamente uguale a quello dei tuoi professori, eccetera. Secondo te Mauro da Mantova non dovrebbe votare. Sai. Dillo chiaramente, secondo te dovrebbe essere interdetto. Ma dico sai. Non lo vuoi dire fino alla fine. Sai. Sì, però poi c'è una persona. Ti faccio però l'esempio di una persona. Non sarebbe, al contrario. Non sarebbe l'unico. Senti, però, non sarebbe l'esempio l'unico che smentisce totalmente la Parietti. Allora, il filosofo della zanzara, il signor Fusaro, è laureato. È anche professore universitario similtale, o comunque aspirante professore universitario. E sostiene, lo sentirai dalle tue orecchie, che in sostanza questo coronavirus, di cui tutti si preoccupano, tranne il sottoscritto, sei un irresponsabile, perché non me ne frega un cazzo perché di questo coronavirus, non me ne frega uno, perché sta a Bergamo alto e se ne frega altro, più a Bergamo, sta adesso a Milano e se ne frega. Posso dire una perché cosa? Lui ha un problema più grande, che gli rubano i gabinetti a Libero, e quindi lui ha quel problema lì. più del coronavirus. Sarà più impellente quello piuttosto del coronavirus. Anzi, io andrei a mangiare stasera, non posso purtroppo che vado dal signor Del Debbio, potrei andare a mangiare tranquillamente. Ecco la marchetta, ad ogni volta che c'è. Ah, un ristorante cinese, sì. Ma tranquillamente, ma senza problemi. Pare che siano voti qui a me. Che cazzo me ne frega? Bravo, questa è la tragedia, bravo. Finalmente hai detto una cosa giusta. Ma no, ma io non voglio dire il posto dove sono andato, ma l'altro giorno sono andato a prendermi il take away, non me lo faccio portare a casa dai ragazzi che... Non mi faccio portare a casa il cibo dai ragazzi perché mi è capitato una volta, perché? Però mi dispiace, quindi devo dare la mano. Quelli lavorano. Mi spiace. Che cazzo? Togli il lavoro a quella gente lì, scusa. Ma cosa li trattano? Lavorano. Non fammi aprire quel... dottore. No, non c'è dubbio. Però insomma la notte con la bicicletta sotto la pioggia. Sono andato dai cinesi. Ti giuro, un godimento pazzesco. Sai che ho ordinato un panino alle 11:20. Un panino bellissimo. Poveretta quella persona che te l'ha dovuto e gli hai dato la mancia almeno. È arrivato a mezzanotte meno 10. Avevo fame, ho ordinato un panino. E gli hai dato la mancia almeno. Ma non sia mai, che sei impazzito. Ma non sia mai. C'è il servizio incluso. Servizio incluso e via. E quindi tu alla persona non gli lasci un euro, panino, magari. Coca-Cola, ti fai ridare il resto. 12 euro, carissimo. Ti fai ridare il resto. 12 euro, carissimo. Un panino carissimo. 12 euro, l'elite. L'elite, 12 euro alle 23:20, arrivata a mezzanotte meno 10. Comunque ragazzi, abbiamo deviato un po' dal discorso di Fusaro. Fusaro che sostiene sostanzialmente che è colpa degli americani. Non lo dice chiaramente, ma è come se lo dicesse. È colpa degli americani. Questo coronavirus deve essere un virus particolarmente intelligente e scaltro se emerge proprio nel momento di massima criticità del rapporto degli Stati Uniti con la Cina. È un virus che effettivamente va a scompaginare il mondo cinese, anzitutto mettendolo in ginocchio, se possiamo dire così. Quindi se non fosse un virus e quindi un essere che non ha intelligenza, sarebbe davvero da pensare che ha un'intelligenza strategica filoatlantista non indifferente. Quello che mi ha stupito, e poi concludo, è il fatto che è stato trattato come se si trattasse effettivamente di qualcosa di naturale, alla stregua di uno tsunami o di un terremoto, trascurando completamente il retroscena politico che potrebbe esserci in questa vicenda. Ormai siamo nel tempo delle guerre batteriologiche e delle armi di chimiche di distruzione di massa, quindi non trascurerei questa pista. Io socraticamente sollevo dubbi, il filosofo di questo si occupa. È un elemento che è circolato in questi giorni, ma insomma non ce n'è stata nessuna evidenza. Bene, Pancari fin troppo educato. Io avrei risposto alla Mughini, regia. Io avrei risposto alla Mughini. Chi era quel cretino di poc'anzi? Io avrei risposto alla Mughini. Non ho capito cosa ha detto Mughini. Chi era quel cretino di poc'anzi? Esattamente così. Morelli invece se la prende con la Cina, regime comunista. Signor Morelli, senti, Morelli, che Morelli della Lega, Morelli. Però in questo caso non ha torto, c'è stato effettivamente sto cazzo di Cina, cioè ci ha rotti i coglioni. Sì, sto cazzo di Cina ci ha rotti. Sì, va a spiegare coglioni agli imprenditori che ma in ho Cina capito, lavorano, ma agli italiani succede che qualcosa, sono lì, dobbiamo sapere. E Cruciani dalla radio dicono la Confindustria, sto cazzo di Cina ci rompe. Ecco la semplificazione. No, ecco ma la voglio dire, sì, i dati bene, benissimo, ritardo, non si capisce mai. Distruggi l'export italiano, vai avanti, distruggi sto paese, distruggilo. Perché vediamo giustamente il tentativo cinese di sembrare quasi una repubblica punto, ma ricordiamo che è una repubblica popolare. E allora? Quindi ancora una volta si dimostra come un regime comunista stia realmente attuando una politica che purtroppo da un lato nasconde. La prima cosa da fare è chiudere le frontiere, la fissazione. Chiudere le frontiere. Questi chiuderebbero, questi ogni volta che c'è un problema chiudere. Chiudere la zanzara, chiudere le frontiere, chiudere sempre frontiere, chiudere tutto. La risposta è chiudere. Per cui innanzitutto la prima cosa da fare è chiudere le frontiere. Chiudere le frontiere da parte di persone che arrivano senza sapere da dove arrivano, chi sono, eccetera. L'unica cosa certa è che gli elettori di Emilia Romagna gli hanno chiuso i voti. Vabbè, questo è certo, l'unica cosa per ora certa. Gli hanno chiuso la presidenza della regione, gliel'hanno chiusa. Troppi negri in giro, troppi negri. Salvino, aiutaci. Salvino, aiutaci. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Chi era quel cretino di poc'anzi? Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Eccoci. Cruciani, amore mio, ti chiedo gentilmente di dire a quel gran maniaco di Ruggero, sì, che nonostante io sia dotata di vagina fin, sì, dalla nascita, sono diventata ingegnere ugualmente. Ma non solo, pensa a te che riesco anche a trombare nonostante non sia sposata. Proprio una gran troia, insomma. Buona serata, ragazzi. Signor Maurizio Ruggero, allora mi scrive una ragazza, Silvia, dice: mi sono ritrovata a lavorare per la piattaforma Glovo, così passo le mie giornate a consegnare con la mia bicicletta, un lavoro dignitoso, mi va bene, certo, ma visto che hai un grande potere, eccetera, attraverso lo strumento orale, ti chiederei di caldeggiare la mancia per chi ti consegna a domicilio, non dire il contrario. Mancia, esatto. Sì, però ragazza, bravo, mia, cara Silvia, mancia tipo, per no, chi ti posso, consegna a domicilio, un euro non fanno, no, la tua differenza, sì, ma, certamente, però, ma la fanno per lei, sì, ancora questo argomento, sono contrario a queste, sì, campagne che ti, no, sento, sei... per cui uno si sente quasi in obbligo. No, non, non è c'è obbligo, nessun obbligo, uno paga già il servizio, chi obbligo, se ne frega. Ma dai, che vuol dire? Su. Ma è un, ma non atto faccio nessuna campagna, di giustizia, Silvia, di giustizia. Ma che di giustizia? Ma smetti di dire un cazzate, euro, dai, a te non fa nessuna differenza, a te, a lei lo può fare. Ma cosa a lei c'entra? Lo può fare, allora, a lei lo può fare. Feltri non beve acqua ma solo alcolici. Più siete Feltri, ricchi, più siete tirchi. Feltri voi. Non beve acqua, sì, ma solo alcolici. Questo uno potrebbe dire sì, capisci, sì. No, si può, si può intuire, dico. Ma si può in qualche modo anche intuire, non, senza voler dire, senza volerlo, diciamo, esplicitare. Che lì mi pare che il controllo sia perso del giorno, perso il controllo del giornale, gli rubano sotto il naso i pezzi del cesso. Ah no, e anche le merendine. Ma possiamo farlo poi risentire nella seconda, aspetta, parte della, aspetta, trasmissione, aspetta, perché, aspetta. Volevo un po' d'acqua? No, bevo solo alcolici. Grazie. Io mi associo. Va bene, che gli alcolici oltretutto non è che fanno benissimo, fanno benissimo. No, guarda, io Vi vedo in forma, in effetti. Ci si conservano anche le vipere sotto spirito. Esattamente, esattamente. Ma fanno benissimo come le sigarette. Il grande scontro Feltri-Vauro, sì, sul comunismo, sì, come malattia. Beh, senti, è un bel... Entrambi, diciamo, possiamo dire gran bevitori, dico solo questo, gran bevitori entrambi, diciamo. Mi sembra, no, di poterlo, non dire disdegnano, senza non paura disdegnano di essere smentiti, no, né querelati. Mi sembra di poterlo dire sine ira et studio. Assolutamente. Sine ira et studio. No, e dico anche che si può migliorare da quella malattia. Ma non si guarisce. Guarire è difficile. Ho capito. Guarda, l'Emilia, guarda l'Emilia. Esatto, lei è guarito? No, ha ragione in quel caso lì, proprio nel senso che dal comunismo non si guarisce. Intanto, infatti, io ne sono affetto proprio. Ma è una malattia. E spero anche di essere infetto. Io ricordo quando Berlusconi era ossessionato. Pochi ma pessimi. Pessimi, cioè proprio non guarite da. A vedervi insieme, sembrate due, no, sposi, ma... sembrate Albano e Romina. No, invece io, se mi permettete. No, ma tu ti ricordi, sì, quando Berlusconi era ossessionato dai comunisti che li vedeva dappertutto? Aveva ragione, l'aveva assunti tutti lui. Poi a un certo punto Feltri inizia a parlare ovviamente delle donne che si rifanno il sedere. Questa è Kim Kardashian, che, diciamo, è il portabandiera della tendenza del momento, cioè il sedere generoso. Tutte le donne del mondo che hanno un sedere un po' più piccolo adesso vogliono il ritoccone. Lei è d'accordo sul ritoccone? No, non mi interessa molto, perché le funzioni del sedere le conosciamo tutti. Sì, no, ho capito, dico, le condizioni del sedere le conosciamo tutti. Sì, che sono, diciamo, strumenti per l'uscita, non per l'ingresso. Sì. A lei piace la donna generosa oppure la minuta è un po' tirchia? A me piacciono le donne degli altri. Le donne degli altri mi sembra perfetto. Una cosa ormai incredibile. Incredibile. Nunzio da Napoli, avanti tutta, ragazzi, avanti tutta. Nunzio, dimmi tu. Dimmi, buonasera. Dimmi. Ti chiamavo in merito alla questione del bambino che ha detto. Sì, sì, poi ne parleremo ampiamente durante la trasmissione. Nelle prossime puntate. Sono stato oggi, da ieri, vengo insultato. Certo. E mi dicono che devo morire di cancro, no, eccetera, per non avere detto nulla. Perché non ho detto nulla. Ma non ho detto nulla. Sì, adesso ti lascio parlare tranquillamente. Ma non ho detto niente. Mughini ha detto una cosa che era chiaramente un paradosso. E leggo che qualcuno vorrebbe querelare, non so chi, gente che insulta, o i social, di cui non me ne frega nulla, leggo le cose in ritardo, piene di insulti, di gente, dice avete insultato un ragazzino, no, non è vero, non ho insultato nessuno. Nunzio, dimmi, allora, avanti, che hai da dire? Allora, la premessa è questa, Cruciani, dimmi tu. Buon Cruciani. No, buono, non sono buono, ma non ho insultato nessuno, ho semplicemente... Dimmi. Che quella, la questione è chiaramente deplorevole perché il bambino ha ricevuto un messaggio sbagliato. Il punto non è cosa qual hai è? Detto tu, e il punto è tu che esempio sei. Ma cioè, cosa c'entra l'esempio? No, ma io non voglio essere esempio di nessuno. Tra l'altro, non ho manco attaccato il bambino. Non ho criticato. Non l'ho criticato. No, ho detto semplicemente. No, Nunzio. No, Nunzio. Io non ho. Allora, il bambino, a parte che il bambino è incriticabile perché è un bambino piccolo, dunque non è criticabile. Esatto. Non è criticabile il bambino. Io ho detto semplicemente questo. Bambino, no, certo. Cioè, il bambino non è criticabile. Ho detto solo una cosa. È stato scelto apposta, immagino col consenso dei genitori, per fare una roba di riconciliazione, le squadre che entrano in campo, la cosa che si fa sempre, una cosa, un gesto, diciamo, che deve essere d'amore tra due tifoserie. Dopodiché che succede? Lo stesso bambino scelto per fare questa roba, che cosa fa? Dice quelle cose che ha detto, la squadra è merda, ho scudetto, va benissimo, per carità, è un bambino, dicevo semplicemente che è un po' bizzarro, è un po' strano, non ho mai visto una scena del genere da altre parti, abbiamo visto altre scene di bambini, anche della Juventus, che hanno insultato, ma è diverso, ma comunque io non ho mai approvato l'uso nemmeno dei quei bambini lì. È sempre uguale, cioè, ma di che parliamo? Vale, cioè, Nunzio, di cosa parliamo? Di Mughini? Scusami, di Mughini? Di che cosa? Di cosa parliamo? Parliamo di esempio, perché chiaramente il bambino non ha coscienza di quello che fa e per quanto io critichi assolutamente questa. Ma scusa, poi tra l'altro avete fatto tutto voi insieme, voi per dire napoletani, avete fatto perché l'avete intervistato voi con la, cioè un cronista napoletano l'ha intervistato a faccia scoperta, lo ha intervistato, okay, ma sì, non è che l'ho intervistato io, l'avete intervistato voi già giù a Napoli noi a faccia scoperta. Noi lo abbiamo commentato, poi dai, commentato. Su, ma di che parliamo? Cioè, ma siete matti? Mi fai parlare. Poi ragazzi, fatevi scivolare addosso le cose, ma basta prendere le cose sul serio, troppo sul serio. Vabbè, abbiamo detto due parole. Ma tu stai dicendo che non dobbiamo prendere sul serio te, perché sei tu che hai solo a Napoli. Beh, certo, amico mio, c'è un altro caso simile di un bambino scelto per entrare in campo? Assolutamente sì. No, quale? Non il caso specifico. E io parlavo del caso specifico. E certo, questo è un sofismo, perché ti non sofismo, dico dietro a un dito. Ma certo che ci sono bambini che insultano allo stadio, purtroppo ci sono. Certo, ma quello era stato scelto apposta per andare in campo e per essere schierato. Ma la capisci la differenza o no? O non la capisci? Fermo lì. Fermala, poi ti richiamo. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, fiera di Pordenone. Il suo motore aggredisce la strada così. E alla guida ci si rilassa così. Fuori c'è potenza. Dentro c'è classe. Nuovo Renault Koleos unisce lo spirito off-road alla classe di un SUV. A gennaio tuo da 389 euro al mese in caso di permuta o rottamazione e con finanziamento. TAN 549, TAG 645, salvo approvazione fin Renault. Info presso la rete aderente su Renault.it. Prova il nuovo motore blu DCI 4x4 190 cavalli. Se sei un imprenditore o un libero professionista, Fatture in Cloud è il software che fa per te. Fatture in Cloud è molto più che fatture elettroniche e ti permette di gestire anche i preventivi, registrare gli acquisti, mandare i solleciti in automatico e molto altro, in qualunque situazione, anche dallo smartphone. E dando accesso al tuo commercialista, risparmi un mucchio di tempo. Registrati su fattureincloud.it. Ha un prezzo piccolo e in più è Team System. Provalo gratis e semplificati la vita. Tre verticale, fermenti lattici che combattono la diarrea. Finisce con esse. Facile! Iovis! Con 300 miliardi di fermenti lattici, Iovis Bustine può combattere la diarrea. È un medicinale, leggere il foglio illustrativo. E con il nuovo integratore Iovis Flaconcini, miliardi di fermenti pronti per te. Iovis Flaconcini, una forza per il tuo intestino. La gestione della tua flotta aziendale è il tuo business? Che si tratti di mezzi pesanti o leggeri, di veicoli a noleggio o auto aziendali, questo annuncio è pensato per te. Per te che vuoi ottimizzare i percorsi per limitare gli sprechi. Per te che vuoi accedere in un clic ai dati del tachigrafo di bordo e che vuoi dotare i tuoi mezzi dei migliori sistemi di sicurezza. Per te, oggi, c'è VisiRun, il software che monitora praticamente in tempo reale la tua flotta, a partire da 19 euro al mese. Prova VisiRun gratis su visirun.com. VisiRun, l'innovazione semplice che fa il successo facile. VisiRun. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia coop. Sentiamo delle patate. Siamo due volte convenienti per la spesa e per l'ambiente, con residui chimici molto inferiori ai limiti consentiti dalla legge. Meno del 70%. Fritte, ma mai sconfitte. Fino al 5 febbraio, patate gialle origine coop, 1,18 euro la confezione da 2 kg. La coop sei tu. La zanzara. L'Islam ci massacrerà. Non ho niente a che spartire con l'Islam, con Maometto, con il Corano. Io sono italiano e me ne frego se il Papa è di diverso avviso. Sua Santità, per favore. Sua Santità, non insultare. Non è servita a niente la lezione di Lepanto. Siamo italiani, Sua Santità. Sua Santità, se sono io tuo fan. Le solite pirlate da populista. Aridateci Papa Ratzinger! Stop, stop! Rebel, rebel, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad, lonely, stick your stupid slogan and everybody sing along. Ma davvero è così difficile da capire? Ci vuole così tanto? Questo è solo l'epidemia in Cina, è solo il primo avvertimento di Dio al suo strapotere, al suo imperatore che è veramente il demonio Xi impersonificato, alla sua voglia di egemonizzare il mondo, di perseguitare i cristiani, gli uiguri, le altre minoranze, incarcerarli gli augai, torturarli. Questo è solo il primo degli avvertimenti di Dio. Succederà ben di peggio. Altro che il virus che c'è adesso. Ora è il momento buono per andare a trombare i cinesi, alto pancio. Con pochi soldi le trombi delle belle trombate. Secondo me è venuta fuori una bella malattia. Speriamo che muoiano degli altri, che il caso si allarghi. Ma questo è pazzo. Così è pazzo. Si tromba bene. Ma chi è sto che criminale? Ci sono qui sono sicuro che sono sane. Ma chi è sto criminale qua, è vero? Ma sì, è uno che circola, un messaggio che circola in Toscana. Però posso dirti ma è un criminale. Assoluto, uno che si augura più morti perché i prezzi diminuiscono. Mamma poi effettivamente mia. C'è una moria da questo punto di vista. E c'è una moria di persone, cioè anche la prostituzione cinese, i massaggi cinesi, oltre che i ristoranti, soffrono in questi giorni. Adesso il tema soffrono non mi pare tremendamente molto quello dei massaggi, ragazzi, ma così, insomma, che ti devo dire. I centri massaggi sono vuoti, la prostituzione cinese arranca, i ristoranti vuoti, è un dramma in Italia, dramma Cina in Italia, diciamo la verità. No, dramma è Cina. Assolutamente un dramma. Io ho letto oggi sulla stampa una bella intervista a Francesco Wu. Non mi interessa, Francesco Wu è un attimo, cinese. Ho letto oggi della Confcommercio. Ho letto, non hai letto oggi niente, che niente. C'è un sondaggio dell'Eurispes in cui si dice, un sondaggio, uno studio, eccetera, che un italiano su cinque, per un italiano su cinque, Benito Mussolini è stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio. Per un italiano su cinque. Allora voglio dire agli amici di Eurispes, che avete speso sicuramente un sacco di soldi, giustamente per questo grande, per questa grande ricerca, che forse bastava ascoltare questa disgraziata trasmissione, è drammatico, questa disgraziata, cioè, trasmissione, è drammatico, e non spendere tutto questo denaro. Beh, no, per allora arrivare a questa conclusione. L'hanno fatto in modo scientifico loro. E stasera colgo l'occasione per dire che invece con SVG Allora, riassumiamo quello che è successo, la follia di Napoli in queste ore. Allora, tutto parte, come sapete, dal ragazzino napoletano l'altra domenica durante Napoli-Juventus. Si mette in posa, eccetera, fa finta di strappare, diciamo, lo scudetto. Un cronista napoletano lo intervista a volto scoperto, tanto di video fuori dallo stadio. Dunque, roba favo made in Naples, si potrebbe dire. Made in, ma non critico, perché probabilmente l'avrei fatto anch'io. Certo, quel ragazzino volto scoperto fuori, infatti i genitori col sono in consenso dei genitori. Pare no, ma pare siano incazzati. Pare, ecco, pare questo poi è il tema. Tutto pare. Il pare, no, pare. Ma che giornalismo è? Pare. Ma sembra, io sarei incazzato, dicono, fosse stato intervistato così, a parte che da solo lì mi pare strano, fuori dallo, ma comunque era fuori dallo stadio da solo e a volto scoperto intervistato ha pronunciato queste parole. Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale. Mi sono coperto lo scuretto di chi la squadra è merda. Allora, e l'altro giorno, signor Giampiero Mughini, forse non conosceva nemmeno l'episodio, io l'ho descritto, anzi forse lo sì, ne aveva sentito parlare, e ha detto queste parole. Ora ragazzi, vi dovete mettere il cuore in pace, cioè alcune cose sono delle cose, non sono per, cioè qui non c'è nessuna offesa, io non devo fare l'avvocato di Mughini, non me ne frega niente. Sui siti napoletani Cruciani e Mughini insultano il ragazzino. Ma ragazzi, no, è che ma voi di due cosa parla? Il fatto io non sono la Juve, comunque. Due... No, no, ma senti sta cosa di Mughini, senti, ti prego, senti. Napoli è stata una grande capitale della cultura europea. Ma al padre di questo ragazzo, che vorresti dire al papà di questo ragazzo? Al papà di questo ragazzo che mi spiace per lui, mi spiace per suo figlio, spero che migliorerà, se no suo figlio, per bene che vada, può andare a fare il parcheggiatore abusivo, per bene che gli vada. Allora, era una parola, ragazzi, però amici di Napoli, cercate di capire bene, perché altrimenti mi sembrate tutti rincoglioniti. Cioè, le offese. E io non caricherei ancora. No, sai, ma mi stanno offendendo da due giorni. A parte che io non c'entro un cazzo, non ho detto nulla. Primo, secondo, ma lasciamo perdere, non mi voglio tirare fuori, non è questo il punto. Signor Mughini ha detto una cosa molto semplice: ha detto al papà, voglio dire che è meglio, secondo lui, naturalmente, che questo ragazzo migliori, altrimenti può diventare qualcosa di peggio se parte, diciamo, a 7 anni, 8 anni, e no, da un gesto di quel tipo là. Io lo lascerei questo episodio, come dire, chiuso nel sistema del calcio, cioè non lo sposterei. No, in ma altri voglio dire, ma questi qua sociali, sono matti, poi... ma sono matti. Cioè, però è una follia che attiene al calcio. Il calcio è a tutte le latitudini così. Tu dici Napoli, ma a tutte le latitudini il tifoso è tifoso. Io non far semplicemente... passare solo i napoletani. No, come esagitati, no, ma figuriamoci. Perché anche quelli dell'Atalanta, no, ma figurati, anche quelli dell'Atalanta a loro squadra modo, squadra del signor Feltri, dici? No, non l'ho detto a caso, non lo so, anche quelli dell'Atalanta hanno i loro eccessi, devo dire, ah, sì, i loro il grandi, è un altro. Quindi è lo sport, è quel, allora, scusa, fermo, non è lo sport, zitto sono un attimo, ultras, zitto un attimo. Allora, questi i ragazzini violenti che dicono parolacce allo stadio, ce ne sono della Juventus, ci sono diversi episodi che mi sono stati, come dire, addebitati in queste ore, ma io questi qua, figuriamoci se sono a favore di questa roba qua. Questo caso è un po' diverso perché quel bambino era stato scelto per un altro motivo, per andare lì in campo a fare un po' da, no, in quella solita, no, pantomima che si fa all'inizio delle partite. Poi è uscito fuori e ha detto quelle frasi. Dunque è un caso diverso che non si è che fino adesso non c'è stato, ma non c'entra un cazzo. Cioè Mughini ha semplicemente detto che, con un paradosso naturalmente, che se quel bambino non migliora, diciamo, che già così piccolo ha, diciamo, ha dentro di sé questo, sì, odio questo nei confronti, chiaro, della Juventus. Ma è la tragedia cosa può degli ultras, dai, quello che fecero con Anna, dai, Frank. Quello, dai, che Andrea fecero Damona, con Anna Frank in curva è la stessa cosa. Che il calcio produce questi eccessi, queste follie. Banalità, Andrea da Modena. Questo, dai, è il tema. Andrea da Modena, dai. Non Napoli. Dimmi. Ma chi è? Ho sentito tramite voi, perché oggi ancora non l'avevo nemmeno, dimmi, sentita la, dimmi, notizia della Parietti. Beh, io sostanzialmente le darei anche ragione. Sì. Per esempio, ma se, ragazzi, non faremo ma non dite cazzate, no, dai, ti su. Spiego una cosa, non farei votare chi dice, per esempio, quando si parla di una notizia, eccetera, ma dove l'hai scoperto? L'ho letto su Facebook. Bon, te sei il primo che non vuoi. Ma cosa c'entra? Se vogliamo giocare su questa cosa, va bene, possiamo giocare dicendo questo vota pure questo, pure questo vota, pure questo uno che vota come me o come te. Ma chi può decidere cosa e dove? Ma ragazzi, ma siete impazziti? Ma cosa è un dramma? Ma che volete? Un mondo dove tutti quanti siano istruiti allo stesso modo? È impossibile. A me fa impazzire questa cosa. Un mondo dove tutti quanti siano istruiti allo stesso modo. Per giusto dare consapevolezza. Non diciamo cazzate. È sempre esistita la povertà. È sempre esistita la gente che non va a scuola. È sempre esistita la gente che sa di meno di altri. Poi sapere di meno che cosa vuol dire. Non lo so. È sempre esistita ed esisterà sempre. Chiaro? Basta con queste puttanate, con questi luoghi comuni ridicoli di questa roba qua. L'istruzione per votare o per essere consapevoli è una puttanata. Certo, uno fa in modo che lo Stato deve fare in modo che, però esisterà sempre la gente che studia poco, che non studia, c'entra? Certo, ma Einaudi quando diceva conoscere per deliberare. Ma stai zitto con Einaudi, non per i coglioni. Bruno D'Acuneo, non sapete niente proprio. Dai, Bruno. Ciao Cruciani. Dimmi. È bene o male che avete messo il tipo lì di Modena. Allora, la Parietti per me ha perfettamente ragione, ma da sempre. La gente che dà ragione alla Parietti, incredibile. A te ti piace perché ti ricordi, ti ricordi la Parietti come di una volta. Allora ti piace il ricordo della Parietti, no, e basta che proferisce parole. Certo. Oppure ti piace anche adesso, perché è ancora una bellissima donna. Dunque, basta che proferisce parola, ti innamori e ti scaldi. No. Ti scaldi, no, capito? Ti scaldi. Lei più giovane di me ha detto una cosa che la penso io prima di lei. Ma che pensi? Cosa pensi? Che ci vuole? La patente a punti per votare? Volevo dirti una cazzata. È davvero una patente a punti. Prendere la patente. Il codice della strada è una cazzata. Bisogna prendere la patente. Tu come hai fatto a prendere la patente? Ma cosa c'entra? Dai, su, ma cosa vuol dire? Ma state rinnegando tutti i principi democratici. La Parietti dice di essere una i partigiani, la democrazia, e poi dice no, dovrebbe votare solamente chi è istruito. Ma che cazzata è? Dai. Ma gli elettori, la patente ci vuole, ma i candidati. Ma Salvini secondo me non riuscirebbe a prendere la patente, la patente della macchina. Va bene, vai, Gaetano da Napoli. Ciao, buonasera, ciao Giuseppe, Davide. Dimmi Gaetano, dimmi. Fascista. Sei Gaetano fascista, vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? No, ma io però volevo dire una cosa seria che ho sentito stamattina. Fermo un secondo. Ho attraversato tempeste e solcato i terreni più impervi. Ho conosciuto l'avventura, l'adrenalina, la libertà. Sul nero della mia pelle si riflette un mondo che non ha confini. Sì, sono nera. È un problema? Nuove esclusive Range Rover Sport Black Edition. 3 anni RCI furto incendio da €795 al mese. TAN 2,95, TAEG 8,31. Offerta valida fino al 29 febbraio 2020, salvo approvazione della banca. Info su landrover.it. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri. Come notebook Acer Aspire 3 con Office 365 Personal a €555 o in 20 rate da €27,75. Fino al 2 febbraio. MediaWorld. Fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario. Informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Andrea. Supremo. Lo sai che sono gli ultimi giorni? Lo sapevo. E quanto ci resta? Ma cosa hai capito? In poltrone sofà, ultimi giorni di doppi saldi e doppi risparmi. Sconto 50% più fino a un ulteriore 40% su tutta la collezione. E puoi pagare in 48 mesi senza interessi. È o non è la fine del mondo? Poltrone sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Banca IFIS, in partnership con il Sole 24 Ore e in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, presenta Fattore I, quale innovazione per il futuro delle PMI? Un evento dedicato allo studio dei casi di maggior successo dell'impresa italiana. Industria 4.0, analisi predittiva e di mercato, per scoprire quale fattore trasforma un'impresa in un'impresa stellare. Fattore I, giovedì 6 febbraio, presso la sede di Confindustria Emilia a Bologna, Auditorium Marco Biagi. Iscriviti su ilsole24ore.com/fattore I. La Zanzara. Allora, al mio 3, mi raccomando, 1, 2, 3, chiudi gli occhi e devi dire... Io me mangio! Bravissima, più forte! Bravo. Io me mangio! Più forte! Io me mangio! La c'è il problema anche del budget. Frocia Lenzo. Crucianino, come te cerca il tuo amichetto Porro, che ha detto? Meno male che c'è Cruciani, parla di cose normali, fisting, sesso ascellare, pissing, scambi di coppia. Questi sono gli ultimi argomenti della settimana. Allora? E Parenzo che dice le minchiate di sinistra. Ah vabbè, avanti tutta Parenzo. Grandissimi gli amici di, come si chiama, di Radio 24, perché io quando vedo che la Zanzara ha un così grande successo, Radio 24 ha così grande successo, sono usciti ieri i dati sulle radio, ma comunque questa Radio 24 che va alla grande grazie agli amici Crociani e a quel delinquente di Parenzo, grazie a loro questa radio va bene, io godo come un riccio, perché è come se andasse bene la zuppa. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Allora, il papà del bambino. La zuppa di Porro. Il papà. Toc toc! Toc toc! Il papà. Toc, appunto. Il papà dico del io, bambino. No, toc toc! Dire, non ma... è finito il Porro liberale. Oddio, che palle. Il Porro di ma Antonio Martino. Stai zitto un attimo. Il Porro dei diritti, delle libertà. Il Porro antisovranista. Il sovranismo non è conciliabile con il libero mercato. Oh. Dov'è finito quel Porro? Toc toc! Toc toc! Toc toc! Appunto. Allora stai esatto, zitto, tutte esatto, cazzate. Allora, esatto. Il papà, aspetta, il papà del bambino protagonista del famoso episodio di domenica a Napoli ha scritto una lettera all'Ansa, rivolta anche a me, ma io non c'entro nulla. È fatta grossa, no, si vede. Ma io non ho fatto nulla, cioè non ho fatto niente. Vabbè, ti difenderai no, in tribunale. No, aspetta, insomma, ma quale tribunale? Allora, lo so, vediamo. Egregi Mughini e Cruciani sono il papà di questo. Sta zitto un attimo, che è una cosa seria, su. Lo so, è seria. Egregi Mughini e Cruciani. È sfuggita. Ma non è sfuggito nulla. Egregi Mughini e Cruciani sono il papà di quel piccolo, birbante, futuro e inevitabile parcheggiatore abusivo. Spero vogliate leggere in modo oggettivo questa mia risposta alle inutili offese da voi elaborate all'indirizzo di un piccolo bimbo, primo della classe, generoso e amato in modo incondizionato da parenti e amici, che altro non ha fatto di male se non sfuggire alle indicazioni dei suoi genitori per affermare un proprio pensiero. Inizia così la lettera fatta per venire all'Ansa dal papà del bimbo, mascotte di Napoli Juventus, finito in una gogna mediatica per aver pronunciato in una breve intervista invettiva nei confronti della squadra bianconera. Tra coloro che hanno voluto esprimere un parere anche caustico sulla vicenda figurano il giornalista, scrittore opinionista Giampiero Mochini e Giuseppe Cruciani, anche lui giornalista, conduttore radiofonico opinionista. Il padre del bimbo, attraverso il suo avvocato Pisani, nei giorni successivi alla partita ha chiesto che venisse rimosso dal web il video della mini intervista al figlio. Mio figlio, scrive ancora nella missiva affidata al suo legale, abusando della sua spontanea esuberanza, è inciampato nella viralità dell'ignoranza, unica genuina espressione di un'epoca digitale, madre di una cultura di massa che mai potrà favorire il progresso del genere umano. Vabbè, al di là di quello che pensano sul... Mi sembra giusto però. Sì, questo. No, ma al di là di questo, però voglio precisare, sì, va bene, voglio precisare però una cosa. Voglio precisare una cosa. Io non ho offeso nessuno. Io ho semplicemente detto che quell'episodio e poteva accadere in un è accaduto nel contesto Napoli-Juventus per questa rivalità e io l'ho visto solamente lì. Certo che ci sono episodi di bambini che insultano allo stadio, ce ne sono di numerosi anche a Torino e da parte di tifosi piccoli della Juventus esecrabili. Qui si sta parlando di un'altra cosa, di un bambino che era stato scelto come testimonial per fare, diciamo, l'accompagnatore in campo dei giocatori e che successivamente, forse lasciato dai suoi genitori, non so cosa sia successo, non mi interessa perché sono affari loro, ha pronunziato quelle frasi. Ora, innanzitutto dico al padre che anche noi, anche se non c'è il video ovviamente, quelle frasi magari non le mandiamo per rispetto del bambino, anche se poi spesso abbiamo mandato delle frasi di bambini sconosciuti. Questo bambino per me non deve avere né nome né cognome. Per cui se la pigli con gli altri che hanno diffuso sul web quelle immagini di il padre. Poi gli voglio dire un'altra cosa, l'espressione nessuno ha augurato a suo figlio un futuro da parcheggiatore abusivo. Io non l'ho fatto. Mughini ha espresso un'opinione e fra poco la faccio risentire se non fosse chiaro, perché ha detto, chiaramente ragazzi, ma adesso non si può dire più niente, mi sembra assurdo, non è che ha detto, se uno non cambia, se offende diciamo a quell'età, se offende a quell'età, perché non so quanti anni abbia quel bambino, magari dopo si usa un'espressione forte per condannare alla Mughini, per condannare un episodio. Non ha augurato, anzi al contrario, spero che non accada, ha detto. Per cui non c'è nessuno, non è che si è augurato che diventi un parcheggiatore abusivo. Avete travisato tutto, come al solito, ma lo dico con rispetto, l'abbraccio, e mi dispiace che suo figlio sia stato in quel momento, sia stato trascinato. Mi pongo una domanda, sia stato trascinato dalla sua esuberanza, mi pongo semplicemente una domanda: come mai era lì da solo, fuori, davanti alle telecamere, in pasto alle telecamere? Cosa è successo? Magari ce lo racconta, ma non perché, non voglio dire che lei non ha avuto la responsabilità, per carità, sarà andato allo stadio con qualcuno, non lo so, non so chi doveva accompagnarlo. Certo è strano vedere un bambino alle 22.30, alle 22.40 fuori da uno stadio intervistato da un tizio che passa da lì. Dico solo quello questo. È grave. Io dico solo questo, poi sono affari vostri, ripeto, io non voglio sapere né nome né cognome eccetera, nulla di nulla, ho grande rispetto, dico solo che non abbiamo offeso nessuno e non abbiamo augurato a questo bambino un futuro da parcheggiatore abusivo. Sicuramente non glielo ho augurato io, su questo non c'è dubbio, e nemmeno Mughini ha fatto un altro tipo di ragionamento, se lo volete prendere come tale. Se volete augurare la morte a me, a mia figlia, a tutti, il cancro eccetera, fate pure, non mi interessa. Non l'ha fatto il padre, sono abituato. Il padre del bambino non l'ha fatto una di queste, ha fatto una lettera, mi sembra perfetta da come l'hai letta, quindi sì, ineccepibile. Che i bambini possono finire virali sulla rete. Sì, vabbè, quello è un altro discorso. Quello è il tema. Ho capito, però il bambino, e anche le persone che lo hanno intervistato, il minore, non si sono posti il problema del chiedere ai genitori se era lecito o non lecito. Questo è qualcosa di allucinante. Ragazzi, di che stiamo parlando? Dai, su, Maria Teresa da Milano, dai. Buonasera. Senta, Cruciani, io volevo fare una piccola osservazione a ciò che ha detto la signora Parietti. Allora, mi dice la signora Parietti quanti partigiani avrebbero potuto votare? Io sono valtellinese, secondo me pochissimi, perché in Valtellina il partigiano era il povero, era mio nonno, ma certo, che ha fatto seconda elementare. Ma hai perfettamente ragione, Maria Teresa, hai perfettamente ragione. Allora, io sono a letto con una pleurite, quindi non posso scaldarmi, Cruciani, più di tanto, perché io te la stimo molto. Perché lei dice pane che al c'hai pane. La pleurite, allora, che vuol dire? Cioè, c'hai specie di pelmonite, sì. Sì, esatto. Al di là di quello, non comunque, è che ci puoi infettare da qua come le nostre. No, non mi posso infettare, ma non mi posso accalorare via più etere, tanto. Via etere, la polmonite, il virus del coronavirus via etere. Posso dirti una cosa? Hai perfettamente ragione su questo, tanto. Perché se uno dovesse misurare sulla base dell'istruzione, allora moltissima gente del dopoguerra nessuno poteva votare. Dai, su, perché c'era un'istruzione bassa. Ma di che parliamo? Dai, hai ragione, dai. Gaetano da Napoli, chi c'era prima? Gaetano da Napoli, dai, Gaetano, dimmi. Allora, mi senti, per ritornare un attimo qui al bambino di Napoli, io penso che il vero testa di cazzo in questa vicenda sia il giornalista che ha intervistato. Ma io non lo so, non dico questo, ma magari avrà pure sbagliato, avrà anche sbagliato, certamente. Io sono napoletano, ma il vero testa di cazzo è il giornalista che ha intervistato il minore, perché sapeva che avrebbe detto quelle cose. Questo non lo so, se era così, se non si è neanche posto il problema di quello che stava facendo, tutti noi sbagliamo, però intervistare un minore. Vedi, la goduria dei genitori o di chi sta vicino, di questi bambini che merda alla Juve, la maghietta della Juve nel cesso, spesso sono anche i genitori che mandano in onda sti video, o comunque che non protestano, la lettera che tu hai letto, bellissima, da libro cuore, però vorrei vedere in faccia il genitore. Perché quella lettera, lo sai benissimo, non l'ha scritto il genitore. Ma questo non lo so, magari l'ha scritta l'avvocato, ma non è questo, lui se l'ha intestata, il suo pensiero, che c'entra? Questo non materialmente niente. Lo ha contribuito a scrivere, non lo sappiamo, è il suo pensiero, punto. Vabbè, sì, poi parla di teorie di Lombroso declassate, ripeto, Mughini non ha detto, ragazzi, non si è augurato che questo diventasse parcheggiatore abusivo, ha semplicemente fatto un esempio, poi se volete fare casino fatelo, perché ci divertiamo, ci vogliamo divertire, ha fatto un esempio, ha detto: siccome i parcheggiatori abusivi sono una piaga di Napoli, e su questo non ci piove che sono una piaga di Napoli, e siccome il bambino è di Napoli, ha detto: se uno, se, che poi non c'entra niente, magari i parcheggiatori abusivi non insultano la Juventus, questo non lo so, però ha detto: se un bambino parte così, se un bambino parte così, speriamo che intervengano i genitori, e dicono che vogliono intervenire perché anche i genitori lo condannano. Se parte così, poi potrebbe diventare questo. Forse è un paragone eccessivo, ma è una roba per far capire, per condannare questa roba qui, secondo Mughini. Ma ragazzi, ma dov'è la cioè non è che ha detto che il suo destino è fare il parcheggiatore abusivo, non l'ha detto, ha detto se non intervengono i genitori. Ma ragazzi, ma di che parliamo, dai Claudio? Tu, ma tu non eri fascista, Gaetano, scusa. Però questa cosa, questa, ti dico solo questo, poi magari se mi fai parlare anche sul fatto del fascismo, solo una cosa. No, ma che vuoi dire, non ho capito. 3 settimane fa un gruppo di bambini ha messo in fuga con petardi e pietre un gruppo di poliziotti in un quartiere di Napoli. Sì, allora... Ma tu ti pensi che dopo un giorno se ne è parlato ancora di questa cosa? Un fatto gravissimo. Ma dove? Questore, ma sì, vabbè, lo sappiamo. Dunque? Questore, no, ti dico che certe cose, forse, hai ragione tu, io sono napoletano, ma certe cose forse accadono solo a Napoli. Ma questo io lo dico da una vita, ma non è che lo dico perché c'è però, una condanna, però una condanna vuoi... definitiva, c'è una condanna senza appello. Dico semplicemente perché è così, ragazzi. Ma ora va bene tutto, va bene che ci sono bambini che insultano, ma una scena con un bambino che deve fare no, una... no, questo non dai, credo che accada solo a Napoli. Ma quella roba lì sì, è accaduta solo no a Napoli, è accaduta in quella partita. Appartiene al ma che c'entra quella partita? Su. Appartiene a una parte del tifo da stadio, dai. Comunque Aurelio da Rimini, comunque io non condanno, quel bambino l'ha avuto una reazione, a parte che viene condannato dai genitori che dicono che ha sbagliato, ma io non dico, ha avuto una reazione, dice la Juve è merda, lo dicono tutti, va bene, chi condanna? Io non condanno niente, figuriamoci, Aurelio da Rimini, vai Aurelio. No, io volevo dire, in merito al coronavirus, ieri ho sentito che si diceva che JP Morgan stima una perdita del PIL della Cina all'1%. Ma non diciamo cazzate, vai. Ma mamma mia. Questo è vero, io ho un amico... che va tutti i giorni, no, tutti i giorni, no, ma una volta a settimana al centro massaggi, visto che prima ne parlavate. Lui adesso ha preso l'influenza, non ci vuole più andare, ma sai quanti soldi ci lascia? A farsi fare l'happy ending, sai quanti? Lo so, cioè, infatti sono in crisi in questi giorni. Massimo, crisi, Massimo da Rimini, vai, Massimo da Rimini, dimmi. Ciao, coronavirus anche io. Io stamattina ho ascoltato un vocale di un... lavoratore italiano che è attualmente in Cina, che mi ha spaventato abbastanza, perché le informazioni che noi arrivano qua sono totalmente riduttive, in quanto lui parla di una vera e propria pandemia di città con il coprifuoco, di 9.000 morti. Ma è una cazzata, ma sono puttanate che girano, dai, sono puttanate che girano. No, no, no, posso no, dirti, sono puttanate che girano, stronzate che girano. Sono stronzate che girano, ti dico. Ma sono... questo lavora lì. Ma sono, ma che vuol dire? Ma chi sono? Ma ho capito, ma c'è gira un audio in cui si dice che è tutto provocato dal governo cinese. No, no, ma di che parente della mia collega? Ma chi, cioè, come si chiama questo qua? Come si chiama? Come si chiama? Il nome di questo qua non ho la più pallida idea. Allora, come si dice, è un amico della tua collega, non sai un cazzo. Tu non sai il nome, chiami dicendo: ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Però se è vero, avete sentito il telegiornale adesso di Radio 24, dove tra poche ore l'Organismo Mondiale della ma cosa c'entra col fatto che uno, con quell'audio che gira in cui si dice che c'è una roba militare, un virus, eccetera? Ma di che parliamo? Dai, ciao. Allora, ciao, faremo ciao, a vedere. Ciao. Estremisti cristiani in giro per l'Italia. Mancavano, senti, mancavano questi, senti mancavano. Cosa c'è in questo disgraziato paese. Ha creato uomo e donna, la famiglia è fatta da sono uomo. Sono uomini e donne anche, sì, gli omosessuali, ma... le lesbiche. No. perché non è così che si vive. Si può vincere anche queste cose qua, offrendo il loro corpo in olocausto a Dio, superando queste sevizie e questi schifi che ci sono nel mondo. Bisogna vincere queste tentazioni. Ma io vorrei parlare al mondo intero, vorrei parlare. Per dire cosa? Alle donne! Per che dire si cosa? Accolti, agli uomini! Per che dire si cosa? 3, 4, 10, 5 e noi. È bello questo? Che tenta di metterci le mani sopra. Gli anticristi, giù le mani! Andrà all'inferno, quelli che non credono in lui. E il paradiso è un posto bellissimo e c'è stata. Nulla deve vedere, no. Comunque, giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. Da cosa si vede? Dai tempi che ci sono. La devastazione dell'Australia. Apocalisse 8. Perciò sì, anche quello. Certo. Cioè, lei che ha votato? Io che ho votato, onestamente, Salvini. Anche la Meloni, Sono donna, sono mamma, sono cristiana. A parte vince Salvini, che sarebbe una buona cosa. Come una buona cosa? Sì, guarda, perché lui ha i valori della famiglia. No, i valori... Ma come? È divorziato 18 volte, signora. Come? Vabbè, è vero, vabbè. Sì, è vero. Né che si fa, io amo i topi, amo le vacche, le cose, poi io sono un religioso, di che cosa? Bisogna rispettare. Così non le sta rispettando molto però. Io lo rispetto, però loro non rispettano noi. Pena di morte no, però... Beh, stupendo ragazzi, meraviglioso. Cioè, esiste gente così in questo paese. Sì. Francesco da Milano, vai Francesco. E dimmi. Qualcuno vota la Lega, stando a quello che hai mandato in onda. Anche a Meloni, dimmi Francesco. Senti, dimmi. Ti voglio dire una cosa, vedo che questa storia del bambino di Napoli non fai tanto il canasta. Molto. Ma come no? Che vuol dire non sto facendo il canassa, cretino? Che vuol dire? Che scusa? Non fai il canassa perché vedo che sei molto tranquillo. Non, non canassa vai che vuol dire? Ho detto... Che dici. Questa volta sul bambino di Napoli. Ma cosa? Ma cosa? Cosa? Comunque... cosa? Spiegami cosa? Sì. Spiegami cosa? Che cos'è che non faccio il ganassa? Cosa? Che dici? Non fai ganassa su questa storia qui, sei molto sulle tue... Ma molto sulle tue di che? Ma molto sulle tue di che? Rispetto a che cosa, imbecille? Rispetto a cosa? Al tuo giudizio sulle storie dei ragazzi di Napoli. C'è un clima incantato. Ma allora, amico mio, ho detto sin dal primo giorno una cosa, forse non mi hai ascoltato, ma non è grave la cosa. Ho detto semplicemente così, un fatto del genere io l'ho visto accadere in una partita, non che non ci siano bambini che insultano, solamente a Napoli, in una partita Napoli-Juventus, chiaro? E questo bambino ha detto questo. Non ho detto che il bambino è un cretino, un deficiente. No, ma io sto dicendo. E allora che cosa vuoi? Non ho capito. Allora cosa vuoi? No, è che ti ha dato dentro Mughini. Ma Mughini ha chiesto una cosa e ha risposto. E ha risposto. È chiaro. Cosa voleva che ti rispondesse? Ma che ne sai? Che lo sai prima? Lei sai prima le risposte? Ma le sai prima le risposte delle persone? Le sai prima? Le sai prima tu? Ma cosa non ci vuole? Che non sai un cazzo? Se chiami Mughini, quello ti risponde: ma cosa vuoi che questo bambino possa fare in futuro? È normale. Ma che ne sai tu? Che c'hai la palla di vetro quando rispondi, quando fai le domande alle persone? Non ho capito. Che fai? Che sei il divino Telma? Non ho capito. Ma cosa vuol dire non fai il canassa? Imbecille! Cosa vuol dire? Ma sei un cretino! Ma con chi? Ma con chi? Con tutta l'Italia. Ma tu sei nato per fare. Ma tu sei nato, teso, ma tu sei nato per fare figure teso, di merda. Tu sei nato. Clima... Ma tu sei nato per fare figure di merda. Tu sei nato. Però questa volta ma con chi l'ho fatta? Hai abbassato la cresta. E dimmi quando è. Ma tu dimmi quando è che avrei fatto. Ma dimmelo quando avrei fatto la figura di merda. Dimmelo, spiegamelo. Avanti, sei. Vediamo l'argomentazione. Dimmi. Quando è che avrei fatto la figura di merda? Dimmelo. No, hai fatto la figura di merda perché invece di dire la tua. In diretta è girato dentro quel povero di Mughini che è un juventino. Ma cosa c'entra? Guarda, l'ho chiamato per un'altra cosa. Perché tu hai messo su un piatto da gente e quello non è avuto le palle. Stefano da Siracusa, dai, forza, vai a fare in culo. Vai, Stefano da Siracusa. Dimmi, Francesco? Francesco, sì, Stefano. Stefano, dimmi, dai. Sì, ciao, niente, volevo intervenire sul discorso del. Come si chiama? Il Papa Ietti, no? Allora? Sì, fondamentalmente, secondo me non è una questione di istruzione, di livello di istruzione che deve avere per andare a votare, ma quantomeno sarebbe interessante pensare, riflettere su un test attitudinale, nel senso tu hai, riesci a fare uno più uno, ma siete impazziti, ma siete impazziti sul serio? Ma quale test attitudinale di che cosa? Ma sei impazzito, test attitudinale. Se la logica, se stai aiutando la logica voti, altrimenti no, perché se no ci troviamo. Ma non dire stronzate, dai, su, che saresti da bocciare tu appena iniziato a parlare. Quelli che hanno il dialetto in un certo modo non parlano, quelli che parlano col dialetto siciliano non votano, quelli che parlano solamente quelli è che una follia, solamente quelli che parlano perfettamente italiano. Dai, test su, di logica, stai. È uno più uno, se riesci a fare uno più uno voti, altrimenti no. Ma dai, ma non essere, sei un pazzo scatenato, dai, non dire stronzate. Ma non dire stronzate, dai, Claudio provincia di Lucca, dai, Claudio. Buonasera ragazzi, volevo una riflessione insieme a voi, fare una riflessione. Sapete il coronavirus che può avere un'incubazione fino a 14 giorni asintomatica, sì, senza mostrare niente. Certo. Non capisco come mai tutt'oggi si parla di controlli eccezionali, fantastici. Lo so, chiami un'altra trasmissione, a me non me ne frega un cazzo, fermi tutti. Faccio tutto una fascia perché dal MES è arrivato già dal vecchio sistema, se per essere adesso al MES. Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono allora, fatti dare, dai. Oh, oh. Quante firme avete già raggiunto? Guarda, di preciso non lo so, però parecchie, perché non siamo stati a contarle perché c'era tanta gente e le abbiamo messe via. No, ma ho firmato lì, ma mi hanno fatto firmare lì, però mi hanno fatto mettere il nome. Che c'è sopra lì? Che è... No, ma dico, ma ha messo una firma, sa per che cosa l'ha messa? Io ho messo la mia firma, nome e cognome, però loro non mi hanno mica detto che cosa bisogna votare, cosa. Per cosa avete firmato? Per il MES. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a MES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Se mi riprendo, oh, oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Perché cosa sta MES? Eh? Perché cosa sta MES? Eh? Un acronimo il MES. Sì, lo so, era per... Per la protesta di tutto. La Zanzara. Eccoci. Ragazzi, complimenti per la puntata di ieri sera a Modena, fantastica, devo dire la verità, tanta roba, il litigio tra la schiacciapalle e il moralista e poi Dulcis in Fundus, il come cazzo si chiama lì, quello che voleva esorcizzare le sardine, mamma mia. Ragazzi, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Cazzo, ma questa volta mi è salita veramente la carogna. Ma come si è permesso quella merda di buttare in faccia un dolce a un ospite? Cazzo, Gottardo, sei violento, sei un istigatore, sei tutto il contrario di quello che dici di essere, sei maleducato, sei ignorante, sei arrogante. Guarda, Polegato, ma, cazzo, ma non fagliela passare liscia, io ti avrei smontato il banchetto della radio, ti avrei mandato a puttane la trasmissione, gli avrei spaccato la faccia a quello e a tutti quelli che lo difendevano. Ma come cazzo state? Ma come cazzo stai, Polegato? Ma porca puttana! Guarda, questa volta veramente siete proprio, ci sono dimostrati, cazzo, chi sono i violenti razzisti? Bastardo, Gottardo fascista di merda! Viva Polegato, tutta la vita, viva Polegato, tutta la vita! Luciani, di a Parenzo di non montarsi la testa, che al circo lui non ha il fischietto e il frustino, non fa il domatore, lui ha il naso rosso, lui fa il clown, quella è l'unica cosa che sa fare, il clown. Ciao Crucio. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Esatto. Esatto. Esatto. La nobile arte dei pagliacci, peraltro, esaltata da Federico Fellini, ma che ne sa questo? Allora, ragazzi, Spatalino è tornato. Spatalino. Senti. E Conte, Giuseppe Conte, ecco, peggio ancora. Chi era fino a qualche anno fa sto cristiano? Chi era? Un carneade, messo là da poteri forti, dai grillini. E adesso sta diventando più pittino degli altri. Ma anche dalla Lega, però, scusa. Miliardari! E io mi chiedo, ma come fa quello a essere comunista con i miliardi che ha? Ma chi è comunista? È una violenza! Ma chi è comunista? Ipocriti! Gente che non è eletta dai cittadini. Quando penso a Giuseppe Conte, è lì presidente del Consiglio. Chi l'ha votato? La Lega l'ha votato. La Lega lo fece presidente del Consiglio. Senti, la Lega. Io sono un istintivo. No, tu sei. Dico e faccio quello che penso, ma con uno scopo ben preciso: di allertare la brava gente, di informare i miei telespettatori che senza le mie notizie sarebbero all'oscuro di quello che succede in questa Repubblica delle Banane. Adesso non esageriamo, insomma, no? Non esageriamo. Senza di me sarebbero all'oscuro. Senti. Voglio essere io, Enzo Spatalino, cosa a scegliere il capo dello Stato. Beh, figurati. Ma per carità. In base a che? Ad alchimie politiche. Fanno peggio dei carbonari. Si vedono Parlamento... di notte. Ma non è vero. Il Parlamento è seduta riunita. Cosa dice? Ma diglielo, ma cosa dice? Ma, io di... cosa ma diglielo, dire? Non è così. No, il Parlamento io, è seduta riunita. Voglio essere io, lui congiunta, dice, Camera il popolo, e... il popolo, immagino che sia come, io. Ma da solo. Come si fa? Ma sì, cioè, anche qualora fosse vera questa tua interpretazione bonaria, diciamo, della follia detta dal suddetto, bisogna spiegargli che non esiste l'elezione diretta del capo dello Stato. Però forse lui auspica questo, forse. Sì, forse. Sono peggio del cardinale Richelieu. Ma chi? Quest'ultimo era un dilettante di fronte ai compagnucci che abbiamo in Italia. Tanto scaltri e tanto abili sono a tessere le loro trame. Ma grida vendetta sta questione. Io mi auguro che non vada in porto una legge del genere, perché così facendo tu andrei a stimolare centinaia di disperati ad occupare le abitazioni sfitte, private. Ma non lo so. Si creerà una miscela esplosiva che potrebbe esplodere. Ma vergognatevi! E dov'è Mattarella? Dov'è? Mi chiedo, dov'è? Ma che chiedi? Mattarella, il garante? Ma cosa chiedi? Povera Italia! Comunque, ragazzi, è un Hyde Park una quello è un cambiamo argomento. Allora c'è un prete l'addio della a Banzaghello, paese di Banzaghello, Milano. Non so neanche giornalino parrocchiale, ne ha parlato anche Striscia Notizia nei giorni scorsi. Giornalino parrocchiale di Banzaghello, il titolo di questo giornalino è Il Mantice. All'interno di questo giornalino, all'interno di questo giornalino ci sono delle frasi incredibili. Ci sono dei veri e propri. C'è un giornalino edito dalla parrocchia. Edito dalla parrocchia, benissimo. Quindi con un controllo editoriale del parroco, sì, diciamo. Sì, questo Don Bosani, dicendo. Il parroco si chiama Don Bosani. Allora, ma è al corrente questo parroco allora, di queste cose? Cosa lega Lenin, le sardine, Greta, Hitler e l'Unione Europea? Si parla di sardine leniniste e gretismo nazista. Si parla di sodomiti che si scambiano l'AIDS, di gay sodomiti che si scambiano l'AIDS, eccetera, eccetera. Tutto prodotto da questa, parrocchia. Tutto prodotto. Frasi contro gli omosessuali, d'accordo, visti come fumo negli occhi, eccetera. È stato segnalato questo gli eterosessuali scritto. Maschi bianchi sono ormai un'eccezione, vengono emarginati, eccetera. Chiamiamo Don Bosani, il prete di Banzaghello. Pronto? Don Armando? Eccomi, buonasera. Buonasera, sono Cruciani da Radio 24. Sì. Disturbo? Sì, dipende. No, nel senso, la chiamo, glielo dico molto sinceramente, perché ci sono molte polemiche su questo vostro giornalino, no? Cioè su quello che c'è scritto sul vostro giornalino. Sì. Mi può dare una sua definizione dell'omosessualità? Non è accettabile e viene classificata, come dalla tradizione cattolica, peccato impuro contro natura. Mm. Ormai l'unica specie, la minoranza, diciamo così, non protetta è quella del maschio bianco, eterosessuale, cacciatore e pertanto che rientra in questa categoria. Ma ormai che follia è? No, però scusi Don Armando, ma lei è veramente convinto che siamo in presenza di una, come dire, che ormai il bianco eterosessuale è demonizzato? È demonizzato perché? Da chi è demonizzato? Dai media, da tutti. Guardi la bagarre. Tanto è vero che se uno dissente e si permette di dire no, io mantengo la posizione di sempre, no, come sempre è stato, viene demonizzato, cioè non può neanche esprimere una libera opinione in merito alla cosa. Lei pensa che l'omosessuale è malato? Io penso che l'omosessuale non sia una persona che possa vivere coerentemente con la fede cattolica e con un principio che si chiama natura. Cioè sono contro natura sostanzialmente. Sostanzialmente è la definizione di sempre, non è che aggiungo io. No, ma se per lei un omosessuale va contro natura. Sì, direi di sì, perché è evidente, insomma, cioè non è che ci vuole il buon senso semplicemente per questo. Dunque, se ci fossero tutti omosessuali, l'uomo si estinguerebbe. Questo è fuori discussione, evidentemente. Però non è solo questo il punto. Il punto è proprio che è contrario alla natura, la legge naturale, sì, a cui crediamo come cattolici, no? Si può arguire anche da un ragionamento in merito alla composizione stessa dell'uomo e della donna, perché la sessualità è finalizzata alla procreazione, evidentemente. La sodomia è un peccato mortale, secondo lei? E certamente. Lei pensa che due uomini, per esempio, non si possano amare? Io penso che si possano amare con amore di amicizia, diverso. Che vuol dire amicizia? Non può ma se due si amano, lei, scusi. Vuol dire che l'amore in quella forma di genitalità. Cioè l'amore vero non può essere omosessuale. No. In realtà la natura non crea nulla contro se stesso. Cioè se uno ama un altro uomo, lo ama. E lei non può definire lo il ama, perimetro. Lo ama con un amore adeguato. No, ma non può deciderlo lei. Se due si vogliono abbracciare o vogliono darsi un bacio. No, ma scusi. Ma non ha previsto nessuno. L'uomo non fa nulla contro se stesso. Quindi è assurdo dire che l'omosessualità è contro natura. Cioè secondo lei, scusi, perché è contro natura perché la conformazione stessa anatomica. Ma chi gliel'ha detto? La conformazione anatomica non prevede, per esempio, non prevede il sesso anale. Scusi se la metti in maniera così brutale. La conformazione fisica non prevede il sesso anale, per esempio? No. Cioè no, il sesso anale per lei è una cosa tremenda, una... Certamente, è contraria al fine della sessualità. Scusi, l'omosessualità secondo lei porta alle malattie? Chieda alla De Mari. Chieda alla De Mari. Ma buona quella, buona quella. No, ma io sto chiedendo la sua opinione, Io non sono un medico. Beh, ha detto chiara la De Mari, signora, che mi fido dei medici. E dunque, secondo lei, l'omosessualità porta le malattie? Mi fido dei medici. E secondo molti medici, secondo i medici comporta notevole disagi. Sì, però scusi, io ho letto nel suo giornalino gay sodomiti che si scambiano AIDS. Beh, è un dato di fatto. Beh, come è un dato di fatto? Cioè, sui siti, sulla De Mari, ripeto, eccetera, eccetera. Questo giornalino. Ma si può guarire dall'omosessualità o no? Cioè, uno può dovrebbe andare a farsi. Ci sono molti. Certo che anche questi non vengono presi in considerazione. Penso a dottor Nicolosi e Van den Arbeck. Come no? Sì, certo. E quelli che non la pensano in certo modo, è ovvio che. Cioè, secondo lei, un omosessuale si potrebbe tranquillamente. Ho avuto degli esempi io. Cioè, di persone che? Sì. Che sono messi in terapia e sono guariti, contenti e poi hanno poi vissuto una vita familiare normale. Per cui secondo lei un omosessuale la prima cosa che dovrebbe fare è andare in terapia? Lo vede lui, io esprimo solo il mio pensiero. Però lei lo consiglierebbe? Lei lo consiglierebbe? Io non vado a demonizzare gli omosessuali. Però lei lo consiglierebbe? Certo. certamente, per forza. Io gli, se viene da me, se si rivolge a me, è evidente che cerca un aiuto. No, ma non si preoccupi che non si rivolgono a lei. Quel giornalino è un giornale che secondo me è per i contenuti, io non l'ho letto, ma da quello che ho è sentito. È pericoloso. No, no, quello no. No, può essere degnamente utilizzato forse per incartare il pesce. Ma quello è un altro discorso, dai. Ecco, vedi allora, è la demonizzazione, no? Cioè, non è demonizzazione, è immondo. Scrivere quelle cose lì è immondo. Esatto, immondo. Ma sono opinioni, dai, sono opinioni. Non è opinione, è anche mancanza di rispetto verso chi è omosessuale. Rispetto moltissimo. È mancanza di rispetto, quindi è un giornale che si può utilizzare per incartare il pesce. In piazza ci si potrebbe baciare, ci si può baciare tranquillamente tra omosessuali, no? Questo, secondo lei? Per me evidentemente no. No, perché se uno si bacia in piazza non va bene. No, per me no, perché va, ripeto, non ma mica siamo in Iran, scusi, ma che esempio, mica siamo in Iran, ma non siamo in Iran dove c'è l'ayatollah, allora, che ti dice allora queste cose vada a dirle in Iran. Ho detto semplicemente che non lo ritengo opportuno, perché anch'io non ritengo opportuno il giornalino che offende delle persone. Così è vero, chi gli ha detto di leggerlo? Ma qual è il problema se due persone si baciano in piazza, due uomini o due donne? È contrario alla legge naturale che vuole la sessualità finalizzata alla trasmissione della vita e non a uno strofinio di corpi, tutto qui. E perché nell'omosessualità prevale lo strofinio di corpi, sono più perversi? Perché non è finalizzata la vita. Cioè sono più perversi? Mentre invece la finalità intrinseca è quella della vita. Sessualità è chiarissimo, guardi. A lei piace la finalizzazione alla trasmissione della vita. A lei piace il Medioevo, mi sembra di capire. Non c'entra il Medioevo. No, ma ha risposto a Striscia la Notizia che le piace il Medioevo. Io ho detto che il Medioevo, in quanto un paese in cui c'è il rispetto della legge di Dio e non ci si fa beffe della legge di Dio, almeno quello. Cioè, tutto per cui il Medioevo le piace per questo? In quanto c'era il rispetto per la legge di Dio, cioè, esatto, che prevaleva su quella degli uomini, però. Vabbè, vorrei vedere. Per lei è superiore la legge? Che la legge di Dio deve prevalere su quella degli uomini. Vabbè, pazienza. Beh, scusi, no, però lei vive in Italia, la Repubblica Italiana dovrebbe prevalere la legge italiana. Vabbè, scusi. Ma io rispetto, soltanto che non sono d'accordo con cosa c'entra. Un'altra cosa, perché il gretismo è nazista? Perché stabilisce un clima di totalitarismo, per cui anche qui dissentire dall'allarmismo climatico è proibito. Don Armando, viva il Medioevo! Viva il Medioevo! È il Medioevo che intendo io, però. Viva il Medioevo, ciao! La Zanzara. Iniziamo nuovamente il collegamento che purtroppo è saltato. Vi chiedo scusa. Noi abbiamo bisogno di avere fiducia in noi stessi per restituire grande dignità. I soldi della 'ndrangheta, i soldi della mafia, hanno i voti, hanno tutto, hanno le televisioni, hanno tutto. Che fai in Italia? È meglio andare all'estero, organizzarsi all'estero. Non si può sapere che succede. Vi chiedo scusa, cari amici. E purtroppo va e viene la linea, purtroppo non abbiamo i potenti mezzi di questi signori e quindi dobbiamo andare avanti con i nostri mezzi di fortuna. Hanno le televisioni, hanno tutto, che fai in Italia? È meglio andare all'estero, organizzarsi all'estero. Non si può sapere che succede. Vi chiedo scusa, cari amici. È incredibile, ma di cosa hanno le televisioni? Cioè, vuole comprarsi una televisione? Non ho capito che cosa vuole fare. Aspetta. Comunque, mi fanno notare che Spatalino fa tac tac, no? Sì, no, tac tac non fa basta. Porro fa toc toc. Sì, porro sì. Fa toc. Spatalino tac tac con la mano. No. Vedi? Tac, boom, tac, boom. E quell'altro toc toc toc toc. Senti, è uguale. Ma che c'entra? Batti la mano. Senti, fallo insieme, vedi come viene. Guarda, toc, toc. Ecco, è uguale. Toc toc. Vedi che ancora, fallo c'entra? Ancora che è uguale. Toc toc. Uguale. Toc toc. Uguale, assolutamente uguale. Stefano da Milano, vai Stefano. Comunque incredibili i prete di prima, ragazzi, vi dico solo no, questo. No, agghiacciante, non gli hai detto niente. Stefano, volevo lasciar parlare lo hai libertà. Assecondato. Ma che ha secondato? Ma che cazzo dici, dai? Stefano da Milano, dai Stefano. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ti chiamavo per ieri sera che stai parlando della pedofilia che secondo te è una crimine, mentre secondo me è una deviazione sessuale e basta. Cioè, non ho capito, scusa, stai dicendo che la pedofilia non è un crimine? No, dico che è un crimine, ma scusa, hai detto che per me non è un crimine, invece è una perversione sessuale. Tu l'hai detto, non è che l'ho detto io, ragazzi. Ma questa sera siete impazziti tutti, da Napoli in su. Cioè, dai, Stefano, dimmi. Dove trovi la differenza tra uno che a cui piace un altro uomo e un uomo a cui piacciono dei bambini? Il discorso che c'è criminale, scusami, è un altro. Scusami Stefano, allora tu stai dicendo dove trovi la differenza tra un uomo che vuole un altro uomo e un uomo che vuole dei bambini? Semplicemente nella esatto. differenza di età. Se tu pensi che un gay sia un pedofilo, sei semplicemente un imbecille. Molto semplice no, la cosa. No. Hai detto ma hai detto la stessa cosa, l'hai detto no, prima. No, ti sbagli. Io non cioè, penso per te che non c'è nessuna differenza tra un gay e un pedofilo? Questo hai detto? Per me, a livello mentale, penso che siano due deviazioni sessuali. Ma di che parla? Fatemelo sentire. Toc, toc! E quell'altro, tac, tac, toc, toc! Esatto. Ma cosa c'entra? No, quando c'è anche Mughini, fammi sentire anche Mughini. Mughini. Chi era quel cretino di poc'anzi? Esattamente. Scusami, queste Stefano, due cose ma sono. Se io dico una cosa, ma come fai a dire che sono tutte e due sullo stesso piano l'omosessualità e la pedofilia? Spiegami, come cazzo fai a dire una puttanata del genere? Spiegamelo. Ma noi oggi accettiamo che uno sia gay e gli piace un altro uomo. Beh, certo che l'accettiamo. Due millenni fa accettavamo che in Grecia gli uomini cercassero volutamente i bambini e forse la cosa era anche incoraggiata. Ma cosa c'entra? Ora, ma cosa, perché stai dicendo una cosa folle? Cioè noi oggi accettiamo, okay, certo che accettiamo che due uomini vadano insieme, non accettiamo invece che ci siano delle persone che vogliono ma andare con i bambini. Ma tu perché ci discuti? Ma no, ci scusi. L'unica perché cosa da dirgli è porro, vai. No, ma che l'unica cosa da dirgli è Spatalino? Ma cosa c'entra? E Mughini, l'unica risposta. Quel cretino di poc'anzi. L'unica cosa, non ti devi mettere a discutere con questi. Scusami, devi, Stefano, cioè per te essere gay ed essere pedofili più o meno è la stessa cosa? A livello mentale penso di sì. Porro! No. Porro! Dai, su, cosa c'entra? Michele, provincia di Treviso, dai. Io lo chiamo Porro, adesso. Michele, faccio, direttore dimmi d'orchestra. Dimmi. Vabbè, direttore d'orchestra, no, viene. Parlava di voto universale, cosa? Sì. Io direi il censo è un criterio, giusto? Il censo come fai? Ma censo è una follia. Il censo. Porro! Il tuo voto è parametrato in percentuale del tuo reddito. Sì, Mughini! Mughini! 50.000 euro. Chi era quel cretino di poc'anzi? Scusami, Michele, scusami un attimo. Tu forse stai scherzando. Tu forse stai scherzando. Ma non puoi parametrare. Allora, che sia uno che guadagna 10.000 euro l'anno, 5.000 euro l'anno, non ho capito. Spiegami. Non vota? Quello che guadagna 10.000 vale, il suo otto vale il 20%, che è il 20%. Porro! Porro! Fantastico! Mughini! Ma questo tu stai scherzando, ovviamente, no? Era quel cretino di poc'anzi? Ovviamente stai scherzando. Ma non sta scherzando, è un cretino veramente. Sto entrando nel vostro ruolo. Ma non è questione di entrare nel nostro ruolo. Io non ho mai sostenuto che uno che guadagna 10.000 euro il suo volo suo voto vale un quarto rispetto a quello che guadagna 100.000. Che cazzo vuol dire? Un decimo? Ma poi che vuol dire concretamente? Che ce ne vogliono 5 che guadagnano, che ne so, 4 che guadagnano 25.000 euro per farne uno che ne guadagna 100.000? Ma che sei impazzito? Così fai anche emergere il nero. È tutta una serie di processi virtuosi che ti aiuteranno. Ma non dire cazzate. Marco, provincia di Caserta, dai. Ciao. Marco, provincia di Caserta. Mentre io sto notando che c'è un. Mi segnalano, anzi, che c'è a San Benedetto del Tronte un tizio, un vigile urbano. Fermo un secondo, comunicazione di servizio. Ti saluta Poletti, che è a bordo di un taxi tal Renato senza sigla. No. Ma ha detto a bordo. Mi ha scritto: ma perché quando salgo su un taxi a Roma ascoltano sempre voi? Scrive il vecchio Polettone. Il buon vecchio Polettone. Pierpaolo da Rimini, vai. Mi segnalano che c'è un vigile urbano di San Benedetto del Tronto, tale Maurizio Novelli, che sul suo profilo Facebook, un vigile urbano, scrive con tanto di divisa anche sul suo profilo: scrive sta cazzo di Liliana Segre mi ha rotto i coglioni. Che schifo. Signor Maurizio Novelli, vigile urbano. Adesso mi si può dire che schifo, si può dire che anzi, una cosa raccapricciante. Pierpaolo, dimmi. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Un paio di considerazioni. Paese strano l'Italia, un cioè, paese dove si scende in piazza per dimostrare contro l'opposizione ed il governo e opposizione del paese. Detto questo, vabbè, volevo, volevo testare la coerenza di Parenzo. Poletti anche dice vigile da licenziare, ma ha scritto Poletti, molto semplice. Poletti, no, Poletti dall'auto, dal taxi dice vigile da licenziare. Ottimo, dimmi, fino a dimmi, che anche Paolo. Poletti. No, dicevo, volevo testare la coerenza di Parenzo facendogli questa domanda, cioè se una ONG dovesse imbarcare, fosse in mezzo al Mediterraneo con un carico di 100 disgraziati, magari di questi una quarantina fossero ipoteticamente colpiti da questo coronavirus, a chi darebbe priorità? Al, diciamo, al, ai 100 disgraziati facendoli scendere in Italia mettendo a repentaglio la salute degli italiani? Ci sono i controlli se uno è malato di, coronavirus viene messo in quarantena, cioè lui sta dicendo non posso, cioè lui sta dicendo che però non possiamo guarda la difesa, occhio alla difesa, lui sta dicendo essere superficiali nemmeno nei confronti di quelli ma che arrivano qui. Quando arrivano qui lei vede quelle bellissime immagini la televisione di persone, medici che salgono a bordo dei barconi, li visitano e li fanno scendere. Una volta che scendono, non vanno in giro dappertutto, non vanno in giro dappertutto, vanno nei centri di accoglienza e li vengono nuovamente visitati. Porro, porro, volevo, non è porro, volevo soltanto capire e che cosa? A chi Parenzo volesse dare priorità, cioè sia non c'è salute priorità, italiana, priorità alla salute, all'emergenza sanitaria. Ciao. Da San Benedetto mi arriva il numero di telefono di questo vigile urbano, tale Maurizio Novelli. Sta cazzo di Liliana Segre mi ha rotto i coglioni. Mamma mia. E poi che non ce la faccio più, c'è altro, non ce la faccio più a sentire questa signora, il cui marito si mise in lista con l'allora Movimento Sociale Italiano. Che delirio, che vigile urbano di San Benedetto del Tronto. Pronto? Pronto? Sì. Scusi, signor Novelli? Sì, chi è? Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, salve, chiamo da Radio 24, disturbo? No, dica. Scusi, mi risulta, lei fa il vigile urbano, no? Sì. Sì, mi risulta che lei sul suo profilo Facebook abbia scritto sta cazzo di Liliana Segre mi ha rotto i coglioni, giusto? Sì. Come mai? No, ma non era un riferimento all'olocausto, alla sua, eccetera. È che ogni trasmissione, ogni telegiornale si parla sempre di lei. Mi è venuto voglia di così mi è venuto spontaneo scrivere. No, ma perché avrebbe rotto i coglioni, scusi? Perché ogni volta che cambio canale la trovo sempre in qualche trasmissione, in qualche o la notizia sul telegiornale, o un'altra notizia ma che c'entra lei sul fatto che parlano di lei? A parte che non è lei che parla, al limite parlano di lei, ma perché avrebbe rotto i coglioni, scusi? Ma scusi un attimo, lei chi è? Io ho detto, sono Cruciani di Radio 24. Ma chi è quel Cruciani con i capelli un po' lunghetti? Un po' sporchi, sì, ogni tanto. Un po' sporchi, Io sono Parenzo, buonasera. E io sono Parenzo, buonasera. Scusi. Un'altra bella persona. Perché c'ha? Disse quello che ha appena insultato la Segre. Disse quello. Io però vorrei capire una cosa: perché a lei la Segre ha rotto i coglioni? Non capisco. Lei fa pure vigile urbano, oppure un certo ruolo. Uno non può sta cazzo di Liliana Segre mi ha rotto i coglioni. Su, amico Novelli. Le ho detto il motivo. Io non ho nulla contro di lei personalmente. Né sui fatti che. Ma che è sto cane? Causati all'olocausto, eccetera, eccetera. Ho detto in un momento in cui cambiando il telegiornale o la trasmissione o il Parlamento europeo o questo, si parla sempre di lei, era una metafora per dire mi sono stancato di sentirti. Adesso parleremo di lei. Adesso invece parleremo di lei. Guardi un po', invece adesso parliamo di lei. Non ce la faccio più a sentire questa signora, è scritto pure. Non ce la faccio più a sentire questa signora. Ma quando l'hai sentita tu? Quando l'hai sentita sta signora? Ma quando l'hai sentita? Sì, avrà parlato una volta, va a fare una conferenza, ha parlato. Stiamo parlando di una persona, di una persona il cui marito si è candidato nell'MSI ma che c'entra? Adesso va pontificando in ogni in ogni luogo. Ma dove queste... va a pontificare in ogni luogo, allora, che non parla mai? Allora, stiamo parlando di... È intervenuta per la giornata della memoria, che lei non sa neanche che cos'è. Scusa un attimo, perché se ne parla solo quel giorno, gli altri 364 giorni all'anno di questo olocausto, di queste vittime, non se ne parla più. Ma in che senso? Non se ne parla più, cosa vuol dire? Cosa vuol dire non se ne parla più? Un giorno della memoria non se ne parla più. Io solo il giorno della memoria, soltanto quel giorno. Ma non è vero. O perlomeno il giorno precedente e il giorno successivo. Certo, il giorno della memoria è fatto apposta per ricordarsi di quelle vittime quel giorno. Che c'entra il giorno dopo? Però gli altri giorni le vittime dell'olocausto sono dimenticate. Ma chi gliel'ha detto? Io sa di cosa mi preoccupo? Del fatto che nella sua città la sicurezza delle strade è affidata a un personaggio come lei. La cosa che mi preoccupa è questa, a me, non le sue idee sulla signora senatrice Segre o sulla giornata della memoria. Beh, di cui il suo parere non me ne frega un cazzo, detto con rispetto, ma quello che mi preoccupa è che una persona così è affidato il controllo delle perché scusi signor Novelli, ma io voglio capire una cosa, ma Liliana Segre, quando uno dice sta cazzo di Liliana Segre, beh, però è pesante sta cazzo, molto grave che un funzionario pubblico parli così, molto. O no avete finito? No, che è finito? Stiamo aspettando Fino a quando ancora volete tediare? Fino alle sue scuse. Scuse a chi? Le scuse a chi? Alla Segre. Allora, ascolti un attimo. Innanzitutto le faccio presente che questa telefonata viene registrata. Beh, anche noi la stiamo registrando, certo, ovvio, è evidente. Scusi, lei è una persona, un personaggio pubblico. Che... Lei è un personaggio pubblico. Quindi magari nelle dovute sedi, quando poi... Ma quali sedi di che cosa? Non ci sono sedi. Ma lei è un personaggio, lei è un personaggio pubblico, è un vigile urbano. Si chiama Maurizio Novelli, scrive due cose... Se riconfermerete che la sicurezza delle strade di San Benedetto... è preoccupante che stiano affidate è preoccupante, sì, sì. Ma che c'entra? Allora, ma cosa c'entra? Allora, c'entra. Se lei dice ho sbagliato, chiedo scusa, ho capito il suo scivolone, arrivederci, grazie. Dunque vuole chiedere scusa? Assolutamente no. Non chiede scusa. Perché le ho spiegato il motivo per cui l'ho scritto. Tu hai detto che pontifica la Segre, perché pontifica? Ma no, io non ho detto che come pontifica. No, ma l'hai detto prima, pontifica. Io ho detto soltanto... Ho detto soltanto che ho scritto quella cosa perché mi ero stancato, magari scrivendola in maniera un po' colorita. Sì. Ho detto che mi ero stancato di sentire parlare di lei in ogni trasmissione, in ogni telegiornale, in ogni cosa. Tutto qui. Mai? E pontifica, che pontifica? Hai detto prima che pontifica. Ma chi è che ha detto che pontifica? Tu hai detto che pontifica. L'ha detto. Sì, certo. E perché certo. No? E perché c'entra quello? Perché uno, non può parlare? Scusa. Se una persona è sposata con un signore che si presenta con il partito fascista. Allora? Fascista. Allora, movimento sociale. E poi dopo va a pontificare, tra virgolette, non so se è giusto il verbo, contro i fascisti. Doveva prendersela per prima di tutto con il suo marito. Ma che ne sai di quello che è successo tra lei e il marito? Ma io dico che sua moglie, per rispetto della sua intelligenza, non deve mettersi col vigile urbano che scrive ste cazzate? No, non mi permetto di dire che sua moglie si sarebbe dovuta sposare con il comandante dei vigili del fuoco anziché con il poliziotto del quartiere, ma non lo dico, quindi non entro nel merito della sua famiglia. Cosa c'entra? Per quale motivo sarà a perdere tempo con un povero per capire cretino, no questo lo dice lei cretino. Per capire solo se lei resosi conto della... Io sono un povero cretino, assolutamente no. Ce lo dice, l'avete capito che molto probabilmente sono molto più intelligente di voi. Ma questo amico mio, sai quante me ne sono inculati di più brutti di voi? Io come, che hai fatto bella espressione, sai quante me ne sono inculati di più brutti di voi? Ma che vuol dire inculati? Bella espressione. Ma guarda, lasciate perdere la gente e non abusate del tempo libero delle persone. Bella espressione. Evidentemente il tempo libero ce l'avevi tu per scrivere queste cose, scusami, io non ce l'ho il tempo libero di scrivere su internet. Certo, perché ieri sera dopo cena non lavoravo e ho scritto. Vabbè amico mio, ti saluto, non vuoi chiedere scusa comunque. Per migliorare la tua infrastruttura IT progettiamo insieme la soluzione Cloud Enterprise perfetta per le tue esigenze. Perché con Aruba Enterprise il cloud è a forma di impresa. Scopri le soluzioni IT di Aruba Enterprise. Zero emissioni. All'inizio era una promessa, poi è stato un impegno. Oggi è una scelta. Gamma Volvo ibrida plug-in. Ibrida sempre elettrica, quando vuoi, per viaggiare in modalità Pure a zero emissioni. Scopri la tecnologia ibrida di Volvo in tutti gli showroom. Dal 2 al 5 febbraio, appuntamento a Riva del Garda con la più completa fiera italiana dedicata all'ospitalità e alla ristorazione. Hospitality, il salone dell'accoglienza, apre le porte alle eccellenze e alle tendenze del settore Horeca. Oltre 100 appuntamenti informativi dedicati all'hotellerie, alla mixology e alla birra artigianale. Acquista il tuo biglietto online e seguici su @hospitalityriva. La zanzara. Non solo il pericolo del riscaldamento globale, non solo il pericolo degli armamenti atomici, ma i pericoli interiori che rendono la vita un inferno, e cioè il dilagare dell'iniquità. Sulle espressioni evangeliche questo, il raffreddamento della carità. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi, sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi, sono veramente un'altra persona, ho salvato qualche dente, vi ringrazio, grazie a tutti, ciao, arrivederci. Crucio, ho avuto un'idea ascoltando il podcast e risentendo la parte di Roccone Nostro, ma scusa, continua a dire che vuole chiavarsi una vecchia sdentata. Perché non facciamo un super incontro Lucia da Pordenone con Rocco Siffredi? Amico mio! Allora, ascolti un attimo. Innanzitutto le faccio presente che questa telefonata viene registrata. Anzitutto una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato. Esatto. Di grande mosca, ormai, tutto, posso dirti che ormai c'è un uso anche da parte, tu sei stato anche, vuol dire, il capostipite di questa roba. No, mosca. Sei stato, no, sì, va bene. Sì. Tu sei stato il capostipite. Adesso uno dice una cosa, è quasi per intimidirti, uno dice una cosa che in alcuni casi può essere. Ti denuncio. No, ma dipende. Ma, ma di che parliamo? Ma siete matti? Sempre. Io sono per la dialettica, per lo scambio di opinioni. Dov'è non da Genova? C'è uno da Genova, Giovanni non da Genova. L'insulto. Giovanni da Genova. Stasera ne abbiamo sentiti di tutti i colori, come al solito, d'altra parte. Giovanni da Genova. Poco sesso, devo dire, poco sesso. Beh, ma fra insomma. un attimo, non vi tradirò. Faremo una grande inchiesta. Una grande inchiesta sulle puttane cinesi, come stanno vivendo questo momento, perché c'è un sacco di clientela, cioè puttanieri, come dici tu, italiani miserabili eccetera, che si rivolgono alle cinesi e che naturalmente sono un po' preoccupati. Alcuni addirittura vorrebbero andare con la mascherina, con la mascherina dalle cinesi. Sono problemi. Giovanni, dimmi. Giovanni. Sì, niente, molto semplicemente, questa è una bellissima trasmissione di barbari, diciamo, no? Anche ogni tanto, sì, la barbarie fa parte del genere umano, e dunque siamo qui. Infatti per la esattamente, bravissima, difendere la libertà, perché è una continua ricerca delle parti di chi ama il sopprimere qualsiasi tipo di libertà. Ma di cosa stai parlando? Scusa, non Giovanni, questo mi sembra come Ruggero di ieri, questo Giovanni. Molto banalmente, anche il coscolo di prima, se si riferisce al Medioevo, se si riferisce all'omosessualità, cioè invece di lasciare la gente libera di fare quello che crede, continuano a sopprimerla la libertà, o vogliono sopprimerla in tutti i modi. Uno deve essere Giovanni, non ho capito bene. Tu a quale banda appartieni? Nulla. Cioè, rispetto ai gay, come ti poni? No, assolutamente, io non lo sono, ma assolutamente con la massima libertà. E allora anche voi da noi? Niente, molto banalmente, l'unico punto che non sento mai trattare è il fatto che purtroppo non procreano. Quindi alla fine certo che non procreano, ma mi sembra abbastanza naturale. Cioè non procreano. Tra di loro non procreano, però potrebbero procreare. Vanno all'estero per procreare. Appunto, è questo che dico. Appunto, e allora? A questo proposito andrebbe citato e andrebbe trovata una soluzione. Andrebbe trovata una soluzione. Che senso, Giovanni? Adesso l'unica soluzione, sa qual è? Giovanni, l'unica soluzione è Nicola Porro in questi casi. Daniele da Pescara, dai, Daniele da Pescara. Daniele. Ciao Giuseppe, ben risentito, sono il camionista di Pescara. Beh, l'amante della figa pelosa, no? Mi sembra di capire. Esattamente. Ma anticipo, prima ancora che, perché ho già capito l'incipit, diciamo, il lead, l'attacco. Mughini, per favore. Chi era quel cretino di poc'anzi? No, ma che c'entra, grazie. Daniele? Non ho altro da aggiungere. Non ha detto niente fino adesso. No, ma ho già capito. Ma non ho capito, solo perché ho gli piace la figa pelosa, non ho capito. No, no, gli piace capito. La figa pelosa. Ho detto, ho già capito. Daniele, scusa, ma io, tra l'altro, non dico che mi vergogno perché non mi vergogno. Quando tu mi hai regalato quel VHS, io lo devo ancora portarlo, ce l'ho qui in redazione, devo ancora portarlo. Me lo prendete un attimo, sta là sopra, se ce l'ho ancora, sopra la mia scrivania un attimo, se lo trovate un attimo, lo voglio far vedere attraverso la webcam, che c'è una, ma, mentre, una... mentre sta trovando quel VHS, io volevo lanciare un piccolo appello, anzi volevo tirare su, diciamo, in ballo Salvini. Cioè? Adesso a questo punto non è più un discorso di fighe pelose, ma sono rospi nello stomaco. Cioè? Quindi di conseguenza io apprezzo molto il gesto che ha fatto Salvini, ma auguro a tutta l'Italia, forse a tutto il mondo, che ce ne fossero i Salvini. Faccio la premessa che non l'ho mai votato, sì, certo. Ma quello che ha fatto lui, se qualche amico mio, che a questo punto considero pseudo amico, ma avesse citofonato a casa, non avrei avuto un guaio e non sarei stato mai un padre così sconcertato, così affranto e così preoccupato. Di avere, e spero che questa telefonata la venga ascoltata anche da me. Non mia ho capito, figlia. Daniele. Mentre, no, io mentre, ho capito. Mughini, non ho capito. Mughini, oggi, rispondigli tu, Mughini. Chi era quel cretino di poc'anzi? No, ma non ho capito, Daniele. Esatto. Tu stai dicendo che Salvini ha fatto benissimo a citofonare a quel ragazzo? Esattamente. Perché? Se io avessi avuto un solo amico, no, lasciamo perdere la forma, lasciamo perdere il motivo per cui l'ha fatto. Per motivi se avessi politici. Avuto un amico? Ma se io avessi avuto un amico, mi avesse citofonato anche in forma anonima e mi avesse detto: guarda, che un tuo figlio, una tua figlia si droga, mia figlia non sarebbe arrivata. E spero che questa trasmissione la venga a sentire pure lei. Tua figlia? Che mia figlia ascoltasse anche lei questa trasmissione. E allora non ho capito, dunque lancio un appello a tutta la popolazione, bussate nei citofoni, citofonate per a tutti, dire certo. Esatto, Parenzo, esatto, ma Parenzo. Che esatto? No, scusami Daniele, però cosa io esatto? Dico, no, cosa? Ma Daniele, allora io dico, no, tu stai dicendo siccome ci sono gli spacciatori e c'è gente che acquista la droga. Sì. A parte che ci sono spacciatori di tutti i tipi, c'è spacciatori di hashish, spacciatori di cocaina, spacciatori di eroina, crack, di crack, cioè, vabbè, e questo è una differenza fondamentale, però, cioè, sempre spacciatori sono, però ci sono spacciatori di diversi tipi, c'è chi spaccia l'hash, alcuni spacciano anche tutto insieme, per carità, però e sono anche tossici. E sono anche tossici, va benissimo, però questo non è che bisogna il caso. Cosa vuol dire il caso? Il caso mio. Cioè? Ho detto semplicemente, se mi fate parlare 3 secondi... Non ho capito allora, tu dici che bisogna citofonare... Ho detto che spero che questa trasmissione venga ascoltata dai miei pseudo amici e sia anche da mia figlia. Ma tua figlia, tua figlia è tossica da 20 anni. Cioè tu hai una figlia tossicodipendente? Esattamente. E non mi vergogno di dirlo, perché no, lo perché sa tutta la popolazione. Non popolazione mi vergogno. Quale ho combattuto, l'ho portata, diciamo, alla comunità, è scappata, è ritornata. Ma la sta facendo seguire adesso? Come sta adesso? Ma se mi avesse citofonato non un Salvini, un pinco pallino qualsiasi, sicuramente mi avrebbe creato un campanellino d'allarme. Perché mi citofona? Ma non quindi la citofona, però scusi. Lei però sta cercando un attimo, di curare la figlia, scusa, ma voglio capire da questo aspetta, signore. Sto perché... andando sul punto. Aspetta, Daniele, scusa un attimo. Non c'è la citofona. Fa anche la spacciatrice? Ha fatto, sì. Sotto, fatto. Il sellino, no. Sotto il sellino della motocicletta. Ma eroina? No, erano pasticche. Non ho capito. Quindi andiamo sempre sul pesante. Sì, ma che si è fatta tua figlia? Di che si fa adesso, se ancora si fa? Di eroina. Di eroina. Allora io dico, ma è in cura in una in... È stata in cura e c'ha i suoi alti e bassi. Quanti più anni bassi ha? Che altri, 38. Cioè 38 anni è eroinomane, viene seguita da una comunità oppure assolutamente no. Assolutamente. In questo momento si sta drogando, cioè no, adesso in un periodo in cui si fa di eroina oppure sta cercando di guarire? Di guarire, insomma, di disintossicarsi. Ma la volontà di tutti i tossici è quella di guarire. La riuscita è zero. E chi è che la sta seguendo? Allora, però qui andiamo di nuovo da Salvini. Dove vive sua figlia? Tua figlia dove vive? Zona Pescara. Zona Pescara. Allora, ragazzi, andiamo sulla vicenda Salvini. Diciamo che tua figlia è a casa con te e tua figlia spaccia, ok? Tua non, figlia... è, no, non è con me. No, ma per dire... Per conto suo. Ho capito. Allora, tu saresti contento se tua figlia... No, se tua figlia... Cioè, tua figlia spacciatrice a casa con te, saresti contento se citofonasse Salvini. È così? Interpreto male? No, no, hai telefonato benissimo. Ma come cambia la tua vita? Però scusa, se mi avessero telefonato prima, se mi avessero citofonato prima, mi avrebbero creato un campanellino d'allarme. Io invece di fare il camionista, avrei fatto un camionista a part-time. No, ma perché dice non se n'è accorto lei, non ho capito. Sì, cioè, lei non se ne è accorto. Se no non si capisce. Cioè, lei dice all'inizio no, all'inizio non è chiaro che non ho capito, però non è la soluzione, ho capito il suo dramma. Mi dispiace. Non è compito di adesso, con tutto, non è compito di Salvini citofonare alle case senza conoscere la vicenda per dire no, ma tu stai dicendo vorrei 101 miliardo di Salvini che citofonano, vorrei che tutti citofonassero. Vorrei un miliardo di persone che facessero lo stesso gesto di Salvini. Sì, ma il citofono non risolve una sega né per lo spazio. La forma è sbagliata, ma la riuscita sicuramente sarà un'altra, caro Giuseppe. Sì, ma non è che a citofonare. Io vengo a casa tua, non sai neppure chi sia della Lady Daniele, no? Oh, io ho detto anche il cognome. Vabbè. Io ti cito, dico tua figlia si droga, punto, ciao e scappo. Ma non è che a parte che non ha fatto così, qualcosa. A parte che non ha fatto così, perché ha citofonato e ha chiesto scusi, lei spaccia. Ma a me sarebbe bastato pure quello. Quello è politica la situazione. Ciao, io Daniele. Sto parlando di una questione ciao, umana. Daniele, ciao, ciao, grazie ciao, per l'intervento. Ciao, ciao. Niente, mi ha bloccato, volevo parlare di Stark Behart. Figa, però niente, andato su una cosa serissima. Però ragazzi, vi avevo detto che cosa? Culo niente? Via, chiude culo tutto, niente. Via, Cina, aspetta, fermo là. Cina, un puttaniere italiano preoccupato chiama le prostitute cinesi. Buonasera. Sì, ciao. Ciao. Ciao, senti, volevo chiederti cosa fai di solito. Un massaggio completo. Quindi il rapporto completo, sessuale, pompino, bocca? Sì. Anche culo? No. Ecco, culo no. E quanto costi? Una persona e 50. 50? Quando tu vieni parliamo, ok? Sì, voglio chiederti solo una cosa. Un po' di sconto. Ecco, uno sconto per il coronavirus. Tu usi la mascherina? Noi non ce l'abbiamo, perché noi non usciamo dall'Italia, non andiamo in Cina. Ecco, ma... noi sicuramente noi non ce l'abbiamo, nessuno non c'è. Non c'è la malattia. Non okay? C'è coronavirus. Senti, se io vengo con la mascherina non c'è nessun problema. Quella, noi non usciamo dall'Italia. Ma arrivano gli altri in Italia però, questo è il problema, no? Non ce l'abbiamo. Non avete il coronavirus. Quella, ecco. Sì, quindi tranquilla. Pompini senza mascherina, tranquilli. Giusto? Sì, abbiamo malattia. Sì, quindi pompini ma senza 100%, senza sicuro. La mascherina, ecco, senza la mascherina così si può fare il pompino senza problemi, ecco, questo è importante. Ciao, bella. Senti, cosa fai tu di solito? Cioè, fai tutto? Sì, male. Bocca, rapporto completo, tutto? Sì, male. Sì, anche, scusami, anche culo? Culo no, mannaggia. Comunque quanto costa per bocca e sesso normale? Con poca male, piccolo male. Sì, no, ma quanto costa? Oddio, mica molto magro. Culo sì. piccolo. Ah, culo piccolo. Senti, quanto costi? Con poca sega, mezzo lo 50. Tutto senza poca, tutto lingua. 1,80. Non usi la mascherina, sennò come fai la bocca, insomma? Sai, c'è il coronavirus, ho un po' paura del coronavirus. Amore, questo qua vicino alla stazione del mio. No, io ho capito questo, però ecco, se io vengo con mascherina anticoronavirus, ok? Tutto a posto? Va bene, amore. Quali sono le tue specialità? Massaggio, pompino, scopane, 50. 50? E sai, c'è in giro purtroppo questo coronavirus, un po' di paura, almeno uno sconticino, uno sconto, un po' meno di 50. Io non ho andato in Cina. Ma sai, magari hai fatto un pompino un cinese, no, che ne no, so no, io. mai, anche amica mai è andato in Cina. Sì, ma no, c'è altra gente che viene dalla Cina e magari ti incontra, no, capisci? No, non c'è amica a Cina, non c'è. Ah, non hai clienti cinesi, ecco, questo è... No, non ho cliente cinese, io lavoro solo italiano. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.